Poi ciao, ciao Robe. Arrivo a fondo scala, di reagire. Sì, stai uscendo forte stasera. Allora sempre così riesco a vedere, cioè, anzi, quelli che sono più basso del normale, perché questa affare quando scala tira un po' più. Vero, caspita, alla grande. Perù. Buonasera a tutti. Se mi ascoltate o so, ascoltiamo. Giuseppe sicuramente li faccio lo smita. Quando ti arriva Luca? Giuseppe. Fagli fare un passaggio, Rob. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 9, 10, prova. Beh, sto scendo, sì, più forte di te. Lui vediamo un po'. Un Santiago 10, pieno. Addirittura lui, 10, sì. Massimo, vabbè, siete molto vicini. Santiago 10, vabbè. Ok, chi è partecipato su 21? Scusa un attimino, Giuseppe, ma sei Giuseppe ti chiami così? Dimmi. Dico, ti chiami Giuseppe? È positivo. Ecco, ma se lui, io sono 10, lui è 9 allora. Sì, esattamente, io lo prendo a 9, Roberto. Perché sono a morte, sì, sono a parte alta. Sì, ma penso che sei più forte di 9 più 10 tu, che arrivassi a fondo scala. E un'altra cosa, Robè, sto uscendo meglio di ieri. Il segnale probabilmente sì. Sai che cosa mi sono accorto stamattina? Che avevo la polarità calda con la saldatura staccata. Stai attenti quello. Ma scusatemi, tu hai dato un rapporto di 9 più 10 a Luca e siete vicini. Senti quanto li ascolti, prendi da Falchetto quanto l'ascolto. Falchetto l'ho ascolto molto basso, intorno Santiago 5, anche lui so che sta usando una Storm, Robè. E considerando che Luca è molto vicino, io pensavo che arrivasse a fondo scala. No, Luca lo prendo a 9 qui. Chi è quello che arriva più forte di quella zona? Luca mi ha detto che Monte Alto, vero? Sì, Monte Rosello Alto. Ma io qui prendo bene Gianni lo prendo un 10, delle volte anche 10.13, 10.15. Comunque a te ti sento come che sei qui a fianco a me, Robè, senza distorsioni, proprio la voce chiara, senza brusio e senza niente. Sì, vabbè, non c'è problema, anche a Luca mi immagino, forse anche meglio di me, più forte di me sicuramente pure. Ma sì, dai, diciamo che nonostante tutto, sì, l'importante è sentirsi bene quando ci facciamo il giro di chiacchierate, Robè, cambio. Buonasera Pierpaolo e bentrovato, cambio. Buonasera. Ciao Pierpa, c'è anche Luca, avanti Luca per Pierpaolo. Ciao Pierpa. Come senti il tosse, allora? Ciao a tutti, buonasera a Toros. E per quanto l'ascolti, Giuseppe? Scusami, Robè, ero distratto con la bambina, non ho copiato. Ho detto per Paolo che Santiago ti arriva lì. Vai, Pierpa. Ulla! Un Santiago 7, pieno. Ulla! Sì, avanti. Buonasera a tutti, doppio K. Dove sei? Sono sotto casa mia, stavo a prendere mia figlia. Ciao Gianni, tutto bene? Kappa, stasera ti sentivo, ma non capivo dove. Ma stasera quando ero in barra pesante? Eia! Sono riuscito a beccare non so se l'avete mai sentito, un radio buffetto che modula, mi ha detto dal latte dolce, cambio. Negativo, lo conosco. Tu hai parlato anche con me ieri di Agorizia, quando tu hai parlato con me, lo vedi quando hai parlato con me? Ma io ero, se non mi ricordo male, all'ingresso di Sassari, Gianni. Ah, perché arrivano di basso. Come c'era? Conosco il buffo. Io ho capito buffetto. chiesto delle informazioni di come stava uscendo, perché dice stava usando un apparecchio che aveva fermo da un pochino di tempo e lo stava facendo scaldare. Eh sì, lui è un veterano, che è un po' triste già. Qualche giorno fa anche con Gigi Vulcano, se non mi ricordo male. Io ho fatto stamattina stanza di tempio e non sono riuscito ad agganciare nessuno. Sì, infatti il tempio è una zona tragica, diciamo, per Sassari, non ne ho mai sentito nessuno che abbia collegato il tempio. Infatti stamattina sono riuscito a beccare solo un collega che, a quanto mi ha spiegato lui, questo Stefano fa movimento terra e ce la siamo tirata sino a un bel pezzo, sino a dopo Perfugas, però eravamo, se può dire, uno dietro l'altro a forse un chilometro di distanza, però per il resto buio assoluto. C'era il marito di Rita. E può essere lui proprio. La voce era di, diciamo, abbastanza giovane, dai, come persona. Stefano, quello di punti, cioè. No, già, non, quello non me l'ha detto. Io, siccome ho salutato i colleghi stamattina, e lui mi ha detto, saluti e buona giornata anche a te. E sono Stefano. Non mi pare che fosse Stefano, il marito di Rita. Movimentatela, perché il marito di Rita... C'è l'impresa, c'è il cane, c'è l'escavatore. E infatti mi stava parlando di che sicuramente non mettevano in moto manco l'escavatore stamattina per l'acqua che stava facendo. Posso dire che fa che il Gennargentu era bianco. Io ho fatto lì la zona industriale dell'Alta Gallura ed è un bello spettacolo. Le strade sono percorribili al 100%, però lo spettacolo è molto bello da vedere. Non vi posso dire che c'era un freddo stamattina che niente, e 4 gradi comunque c'erano lì sotto l'imbara. Fuori ci sono, che ne so, 4 gradi, in deposito da noi ce n'è uno, adesso non so io se sia tutto il materiale che abbiamo dentro che lo tiene, il freddo, però penso che sia sicuramente così. Che viene dal riscaldamento che passa, l'ho detto, dalla spostata la marmitta, il pezzo della marmitta terminale, è quello che riscalda e fa entrare l'aria calda. Uffia con le marmitta, mamma mia! Cioè, quindi prenderai l'aria del motore, come la vecchia 500, un frago busto in uso ti fa. E quindi ci avrai i piedi calcarati, il buco. I piedi calcarati. Cavolo, non venisse a occupare i mobili. Oh, freddo, cazzo, la cuore non si riesce, comprendi? Non ti passa l'Italia, ma è dallo sportello, però. No, quello, sai come sono i fronti di qui, che c'è quel salicchio, ecco. La linea esce, ti spacca le lampe in due. Purtroppo è tutto ferro, tutta la miela, quella la miela trasmette calore, conduttrice eccezionale di calore. Io ti fai anche all'interno degli sportelli se riesci a metterci qualche tipo polistirolo o cosa del genere, però non è che ci abbia più di assai. Però Pierpa, io ti posso dire una cosa. Io sono sicuro che quest'anno fa un po' di caldo, ma è pieno di passaggio. Dicono che quest'anno è l'inverno degli ultimi 80 anni più freddo in Europa. Si gatti lei, io l'unica è stata nella casa, c'è l'aria condizionata, c'è un po' di calore, come si chiama? C'è il climatizzatore, fatto. Se ne sta a casa, tranquillo, sereno, e se fa quel caldo brutto, mamma mia, non mi voglio buttare a terra. Ehi, riprendi Roberto, dice da parte mia via Gorizia. Vieni a seguire 9.40 e... Avanti Joseph. Sì, grazie, era anche per salutare l'amico Antonio che è entrato poco fa. Anche qui nella mia postazione Gianni ha sforato i 9.30 e cambio. Magari. Giuseppe, sei andato oggi in quel posto là? Positivo, amico mio. Beh, cosa ti ha detto? Come già? Cosa ti ha detto? Che stanno arrivando. Sì, gli ha detto che stanno a parte, sì. Positivo al 100%. Allora, ma vabbè, speriamo che non faccia come ha fatto con l'altra gente, che gli altri li mettono a parte e poi ce l'hanno in tutti i cosi, i letti. No già, se l'ha segnata e ha voluto anche il numero di coso, di cellulare, cambio. Già si chiama già. Se fa, rispondi. E a chiamare male, sto aspettando la telefonata. Sto aspettando la telefonata, ma un coso, come l'ha visto chiama la telefonata. Non mi ha telefonato, non è fa i lettere, e neanche per il PL. Comunque le mie legate case si può pure dire. Tutta una seria questa per Paolo. Cosa? Dicevo che allora è una persona seria. No, già li portano, solo che ci vogliono un mese. Già li portano, aspetta che ci sta tutto il viaggio della merce però. Già, quei PL, li logano e non mai ci un poco. Immaginati tu. Perché per Paolo, vanno bene? Ma devi fare una piede, vai! Che feso! Grande successo perché! Guarda, ti faccio vedere! Un piede già ti mette a ridere! Quando ti troviamo ti faccio vedere! Ti mette a ridere che cosa ha portato! Ma io ho visto che l'Antonio li ha comprati, ci ha preso 3 o 4, boh! Ehi, va bene, ma non a parte quelli! Un tipo di PL, fa ridere a tutti, eh. Ho capito. Dove state tenendo già? Adesso Robby sono al Monte di Su, dove ci sono le corna. No, no, questa roba la state comprando. Cosa? E ti dà quelli col coso in testa, appena mi sei usato l'errore si sciogli. La tipolina non esce come te verrà. Ma diritti pure, dai! Ma Torino forse qualcuno ne è rimasto di quelli Anfeno, se non sono venduti quelli americani, solo che questo non vedi di Magis. Ma quali sono, Roberto, quelli che stai dicendo di Torino? Quelli che sono tutti quanti cromati? No, non c'è tanto, ma quella sono tutti cromati. Ci sono quelli di un certo pregio, quelli Anfeno, però quelli costano un po' di soldini. Li paghi 3,50 euro, 5 euro, dipende, che sono dentro in ceramica, sono molto imbacchellite, sono molto più robusti. Quando invece li salda quella non li vai nuda. Quelli in testa, appena scaldi appena che ci devi mettere il capo grosso, si sciolgono. Ah, ho capito, tu stai dicendo quelli che davanti hanno la rondella in teflon, dove entra la polarità calda? Quelli sì, quelli non vanno bene a niente, quelli vanno bene piccole potenze e poi per l'RG58, perché se usi il capo grosso li scioglie, non vanno bene assolutamente, proprio no, appena avvicini il soldatore si scioglie. Quelli altri non sono molto difficili da trovare, però sono buoni, sono tutto materiale di qualità. No, io li ho visti arrugginirsi di PL, io ho dei PL addirittura li ho arrugginiti. Quelli lì mi hanno così trammati, perché tutto è in ottone cromato, sono robustissimi. Caffaro bene. Io tutti i punti strategici dall'antenna oppure certi tipi di apparati sono tutti Anfeno. Poi qualche spettrone è fatto anche con quelli più economici, però Anfeno ne avevo 7-8, me li ho tutti messi nei punti strategici. Ai, strategici. Cos'è per qua? Ai, segna Gianni, segna. Cosa avete? Strategici, così ho detto. Strategici. Quindi è un albero per voi, dai, tanto di voi fai baglia di burugurime, io c'ho il libro qua, me. C'era uno l'altro giorno, non mi ammetto cosa ha detto, cosa quando stava parlando di Down, chi è che ha parlato, ha detto, mi pare fa detto qualche cosa, che mi ha fatto così ridere. Già gli ha detto tutto il meccanismo del coso, tutti gli ingranaggi del microfono li si sono bloccati. Non è stato un lapsus, Roberto, non perché non lo sapessi, è stato un lapsus. Però ieri mi hanno corretto una parola, costui, dice che non si dice costui, si dice costei. si poteva anche costui, chi l'ha detto? Non si usa molto, ma si poteva lo stesso. Costui e costui pure. E dillo Alessio che ha studiato e che mi ha corretto lui. Diciamo, sono fuori norma, diciamo, da non sono parlati più quel tipo di linguaggio, di vocabolo, ma esiste ancora la lingua italiana. Io ho detto spiritosamente, ho detto chi è costui? E Alessio mi ha detto, ah, di qua ti devo correggere, si dice costui. No, guarda, lasciato dire perché lasciamo perdere, volevo far vedere fare sciapputini che non sa di niente. Vabbè, ritorno a casa e poi riparo la vita. Io già che ho studiato Odissea e Santi Angeli, tu. No, io ho studiato e ho fatto il professionale, vabbè, non so laureato, però il professionale l'ha giovato. Vabbè, se mi accorgo che elementare cambia qualcosa, uno si può anche istruire nella terza elementare. Io conosco tante persone che hanno la terza elementare e quinta elementare, però hanno un'inventiva, un'intelligenza che avrei voluto io. Sicuramente chi ha fatto le scuole superiori è avvantaggiato rispetto a uno che ha fatto la terza elementare, però se uno legge, Gabino Leda, non so se lo conoscete. Altro per anche sviluppare l'intelligenza, se uno si mette a studiare e a fare, a leggere, può diventare anche una persona istruita. Anche Gaetano Messina, non penso che era un tipo che andava all'università, pure se lo senti parlare, tanto il cappello. Ah, io conosco tante laureate che si dà un po' che non vuole leggere. È vero, conosco anche gente istruita che non sa dire tre parole croce, che si fa pineccia. Diciamo, ci sono, diciamo, la norma, chi ha studiato qualcosina un po' più di quello che ha fatto l'elementare dovrebbe saperlo, si prevede, almeno si presume, ma non è neanche detto. Perché uno può essere pure tonto che la nappa, andato all'università, però è tonto, ma l'altro c'è la terza elementare, però è un'enciclopedia vivente e sa di tutto. Guarda, io abbiamo molti studenti universitari noi che facciamo la bomba, ma tutte le volte io alcuni dico sempre, speriamo che non siano studiando a diventare dottori, perché sennò guai. Cose che c'è gente che adesso di vedere capitano che ti sbatti con una macchina tu. Io sempre che quelli che pagano le tasse, diciamo per dargli una garanzia a chi ha pagato le tasse, gli faccio una dichiarazione e dico io sottoscritto eccetera eccetera, dichiaro di ricevere dal signore eccetera eccetera la somma per il danno causato alla mia autovettura, scrivo la tele del quanto, mi dichiaro soddisfatto e non andrò a pretendere. Quello che sta ricevendo i soldi vuole la coppia del vestito, ma cosa te ne fai tu? Dice, la garanzia è per chi sta dando i soldi, non per chi li sta ricevendo. Ma io voglio la coppia, non ci sono mai, ma non vale di là, che garanzia vuoi di vedere di là? La vita sarebbe monotona, ricordiamoci anche quello. Guarda, allora sai che mi ha chiamato stamattina quando ero a Bretanieta. Ma lasciami tranquillo, guarda, stavo parlando con un collega e non riuscivo a tirarmelo fuori. Però mi pare che era già mezzo gotto da che ci mangiano mie, saranno state, che ne so, eravamo prossimi a luna, Pierpa. Pierpa, tranquillo che già lo conoscerà anche Roberto. Non so.

anche per salutare Panchetto, io non so se lui mi sente, io non riesco a copiarlo perché ho troppo sottofondo, un fruscio assordante, non riesco proprio a sentirlo, adesso addirittura ho messo le cuffie, però niente, non so se lui mi sente. Papa Giuseppe, ti sento al 100%, ti sento alla grande, non so come mai non mi copia a me, cambia. Il fatto è che mi pare uno spagnolo fa vedere, quella canzone non fa vedere. Ma come è al 100% o è al 101%? Adesso è un po' più debole, a me al 101 mi ascolta, lui così è qualche, a me al 101, a Pierpaolo 101, a cosa un po' più basso, 100%. Oh, è 90 lui, dai. È in un fosso, già. Avanti già. E sta parlando lo smitto da solo con un fosso, con casa. Adesso che tu hai studiato, Roberto, devi toglierci un problema, visto che tu sei lo studioso folle. Ci avevamo un discorso l'altro giorno con Pierpaolo, ma a me mi sa che si sente dentro i muri. Come si dice, altoparlante o autoparlante? Altoparlante, già, mi meraviglio. Tu dire che i due muri, l'ho cercato io. No, so, vabbè, qua sì che sia. No, non esiste, io l'ho sempre conosciuto come altoparlante, però tieni presente molte cose le studiano, e poi le riportano, è come sassarese, ci sono delle parole, oh, io non so benissimo tra parentesi, io sto dando la mia opinione, l'ho sempre chiamato altoparlante, e autoparlante è detto volgarmente, ma sarà riportata anche la parola autoparlante, però non credo che sia giusto come termine giusto di quella cosa che stiamo dicendo noi. Fidia, cercate me, che papà si può dire tenendo le mani. Come fai tu a dire autoparlante? Che cosa sarebbe questo auto? Non lo so, autoparlante. Sempre se tu, per esempio, non compareggi una cassetta di soldi, o c'è scritto diffusori audio, oppure c'è scritto autoparlante. Io non lo so. Se tu li vai a comprare anche nel prezzo della curiosità, vai da media o da un'altra parte, si legge nella strada c'è scritto o diffusori audio, che è la parola in italiano più corretta, oppure altoparlante, mai a autoparlante io ho trovato, mai. Si riferisce alle casse delle auto, autoparlante. Diciamo tutti chiamiamo volt, poi ci essere del forchiare la parola, l'unità di misura della corrente è volta, non so se lo saprete, quello che è inventato la pila. Poi l'hanno forchiata e da volto, da volta l'hanno abbreviata e si chiama volt. Non si sa per quale motivo, perché io ti faccio vedere dei libri antichi vecchi, degli anni 30, anni 20, si parlava sempre 220 volta come ampere, per dire l'intensità di corrente si misura in ampere, in base allo scopritore di quello che ha fatto, oppure Henry Farad, cioè sono tanti nei termini, in base allo scopritore, quello scienziato l'ha studiato. La corrente, la tensione, non la corrente, la corrente si misura in ampere, la tensione si misura in volta, poi la rotazione è diventata un volto. Qualcuno ci mette la S all'inglese, al plurale, quando dici 220 volt, quello è sbagliato, cioè proprio scritto nei libri tecnici, non si mette la S in un'unità di misura. E vabbè, tante cose sono cambiate, vabbè. Anche i sassari si chiamano sassari di prima, ma sono così bassati. Sì, no, per dire, anche questa parola autoparlante, ma l'hanno riportata perché veniva detto da qualcuno, però in termini scientifici tecnici non esiste autoparlante, esiste sempre autoparlante, come ha detto di Coso, che poi probabilmente, non lo so se sia, ma mi immagino, è dovuto al fatto che ti solleva a livello diciamo della voce o di quello che stai ascoltando. Auto secondo me più deriva non da auto, da automatico, secondo me no. E cioè il discorso di auto dovrebbe essere automatico, però non c'ha niente a che vedere se il discorso delle auto, autoparlante, perché mica è l'auto che parla. Michael, così si dice in tedesco. Ma te chi è che ha detto questo? Allora, Gianni si dice Gianni, si dice Jean in francese, che stai a te? Sì, ma il nome tuo, io sto parlando di Jean, io sto dicendo il nome tuo è Gianni, e quando tu presenti devi dire Gianni, anche se stai parlando con un francese o un inglese, quello è giusto dire così. Poi tu lo puoi dire di piacere, però è un altro discorso, io ti sto dicendo, come tu ti presenti, il mio nome è Gianni, devi dire, non Jean, perché stai parlando con un francese o in spagnolo come ti si dice Gianni. Ma io se parlo francese, se permetti lo dico in francese, lo però mi puoi capitare. Io dico, mon nom è Jean. Beh, io sto parlando in francese, lo devo dire in francese, scusa. Se io parlo con un francese che parla la lingua francese, lo dico in francese, mica li dico, mi dà in francese, mi dà in italiano, come ti fa di ieri. Gianni, ti sto dicendo, tu gli dici tutto in francese, però il tuo nome di battesimo è Gianni, devi dire my name is Gianni in inglese, se lo dici in francese devi dire, non so come si dice, sempre Gianni, non devi modificare il nome perché la parola in Francia si dice così, il tuo nome si chiama Gianni, te lo dico con certezza perché era successo a scuola, un professore di inglese, un bravissimo professore, questo di Zussu, ha detto my name is John e cognome, e il professore ha detto assolutamente sbagliato, il tuo nome deve essere il nome di dove sei nato, con la pronuncia di dove sei nato tu, tutto il resto lo dici come vuoi tu, c'è la lingua con cui stai parlando, però il nome tuo deve essere sempre quello tuo, non storpiato. Magari non è storpiato, io non dico lingua francese, Roberto, ti contraddico qua, io non lo storpio, io dico in francese si dice Jean, io dico Jean, che vuol dire Jean, non è che sto storpiando nulla, ti contraddico al 100%, magari in inglese si usa così ma in francese no. Antonio si dice Antoine. Io non conto niente, tu lo chiedi a qualche professore universitario che studiano le lingue, gli dici come si dice quando io parlo con una francese persona, vado in Francia, io mi chiamo Gianni, non Gian, tu ti chiami Gianni, quando mi presento di my name is e gli dici il nome tuo, Gianni. Se lo dici in francese gli dici la stessa cosa, sempre Gianni, non perché stai parlando con francese devi dire Gian. Il nome tuo ufficiale è quello lì, non c'è se stai parlando. Come si dice il nome tuo, dimmi tu già, visto che stai parlando così. Io in cinese il mio nome non lo so perché in cinese non so parlare, poi in francese grazie a Dio mi arrangio. E ti posso dire una cosa, che Jean significa Gianni, quindi io le dico, si dice sempre Gianni, ti sto dicendo, anche se dico Jean, lo coloro, lo capisco, se dici Gianni ma non ti capisco, se dici Jean ti capisco quello che vuol dire Gianni. Gianni. Ascolta, è Antonio come si dice in francese, Antoine. E per me è così, Roberto, mi sembra una cosa strana, ma strana veramente. Magari l'inglese si usa così, però il francese no. No, non c'è inglese, francese, tedesco, giapponese. È così, tu ti chiami così. Allora, è kiwi, tu il frutto kiwi, come lo pronunci? Kiwi. Allora, tu dove è nato il kiwi? Non so se per tanto di paese sarà. Tu le conoscere come è nato, si dice kiwi. Kiwi, no, scusa, kiwi. Kiwi, non lo pronuncia, se vuoi dire giusto devi dire kiwi. Noi diciamo kiwi, kiwi, di un bel nome. Però tu devi pronunciarlo come la paese di origine. Come si chiama? La stessa cosa sono i nomi. Tu Michael Schumacher, quando lo dicono alla televisione, perché non dicono Michael? Lo dicono come si pronuncia in tedesco, per cui adesso vale da tutte le parti. Cosa ti posso dire adesso che mi viene di altri nomi, adesso me ne vengono, ma per dire che li sfruttano perché vai in Francia lo stesso, quando dicono Platini, il nome è Platini, e andare in Francia rimonerai l'accento sulla I, ma è sbagliato quello, perché il nome suo è Platini, poi i francesi mettono l'accento sul tuo quarto, poi è sbagliato, poi se la gente lo dice un altro discorso, io ti sto parlando a livello di coso, di uso giusto della parola. Oh Gianni? Scusa un attimo, comunque questa qui è la traduzione dall'italiano al francese, non è altro, non è che la sto storpiando come hai detto tu, io non la storpio, dico solo come si dice in francese. Avanti Giuseppe. Sì, ma se io vado in Francia cosa devo dire? Je m'appelle Joseph? Certo. Ma se ti ferma la polizia tu dici ti chiami Jean, così già. Certamente che sì. E loro guardano la carta di tasti e dicono, come c'è scritto Gianni 4? Ma che cosa? Gianni in francese, Gianni vuol dire, no? Ma solo già cosa vuol dire? E infatti sto dicendo, è sbagliato. Cioè tu quando tu ti presenti con un francese, gli dice, come si dice il mio nome, in francese, insomma, e come devi dire Gianni, non Jean, perché lui è in Francia, come tu devi dire il nome è tuo, come ti chiami effettivamente, Gianni, in Scandinavia sempre Gianni, sì, da tutta la parte del mondo sei Gianni, vai in Africa, dai congolesi, se vuoi vedere il Mauro, sai, tu dici, in quella lingua lì e poi dici Gianni, no, perché se in Francia devi dire o no, io sto parlando di modo di dire, poi tu vuoi dire su di me, a me ma non a me, l'ha corretto, ma ricordo come fosse oggi a scuola un professore d'inglese, un bravissimo professore, molto famoso e bravo, preparato, di madrelingua, è andato fuori, eccetera, eccetera. Lui dice, ha corretto, è uno perché lui si è presentato come John, e si chiamava Giovanni, no, tu devi dire Giovanni, il nome è tuo. La stessa cosa, perché si chiamava, questo qua si chiamava Baracca di cognome, allora va a dire che era va a vedere in francese, Baracca. Lui si chiama Baracca, deve dire così. Cognome un'altra cosa, non lo dico quel cognome, io dico solo sono. E vabbè, tanto se ti ha la sua opinione, io... allora tutte le altre parole che traduci le devi dire l'italiano, non capisce un cacchio quello lì. Se non parla l'italiano, non ho capito, allora devi tradurre anche le altre parole, no, le mandi in italiano, non parli francese, quello lì non ti capisce un cacchio, lo dico, se non capisci l'italiano non ti capisce. Già, stiamo parlando di altre cose, io ti sto dicendo, tu sai che il nome tuo ufficiale è Gianni, in qualunque parte del mondo, nel libro, nella carta d'identità, passaporto, tu ti chiami Gianni, e quando ti presenti a una persona, dici, io mi chiamo Gianni, lui dice francese, però Gianni, non Gianni, tu mi dici, te lo fai per comodità, per fargli capire che corrisponde il tuo nome a Gianni o a quello che è in francese, però se tu ti chiami Gianni, devi dire Gianni, poi già, io poi dico, il parere non conta niente, io ti sto dicendo quello che a me mi hanno insegnato, e poi, siccome non ti fidi quello che ti sto dicendo io, quando trovi un insegnante universitario di lingue, però deve essere molto preparato, dici, è vero che quando io parlo con un interlocutore di un'altra lingua, il mio nome lo devo dire come si pronuncia nel nome della nazione in cui sono nato, e poi se ti dice una palla, chiederò a lui. Vabbè. Comunque, tagliamo l'acqua, se il discorso è diventato un po' lungo. Sì, grazie. Stavo giusto per interrompermi, per tagliare con questo discorso qui, perché ho davanti a me un catalogo d'antenne e ho di fronte a me, così sfogliando, mi è passata sotto mano questa benedetta Storm 27 che ho io. Qui mi dice potenza massima applicabile 500 watt, ma che vuol dire questo? Che per alimentarla ci vuole un trasformatore più grande o com'è che funziona quella cosa? No, quello lì infatti che riesce a tenere l'antenna, capito? Senza sciogliersi, ecco. Ah, ho capito, io credevo magari mettendo un trasformatore presumo che questa antenna sia anche alimentata tramite il paracchino, vero già? Ah no, l'antenna non è alimentata da nulla. L'antenna è solo per lettere e basta. L'alimentazione la prende l'apparato, ma l'antenna no. Non ho visto una bella qui, una Skylab, ma è veramente una bella antenna questa, e poi vista in fotografia, guarda, è eccezionale per chi ha un attico. Ma te l'ho già sentita nominare, la Skylab c'era nei vecchi denti. Ma qui dice Gianni che è stata realizzata in un unico blocco in modo da avere la massima robustezza meccanica e la migliore ermeticità delle connessioni. Addirittura qui parla di 13 radiali superiori e hanno la funzione di diminuire le cariche di elettricità statica indotte sull'antenna. Ecco. Ah sì, ho capito. Dovrebbe essere quella che c'ha quei cosini sopra, tipo radialini rimangono, e poi c'è radiali più lunghi giù, confermi? Sì, positivo Gianni, ce l'ho qui davanti in fotografia, cavolo, ma è veramente una bella antenna, e ripeto, per chi ha la possibilità di metterla e ha un attico dove poterci lavorare per sistemarla e magari piantargli un paio di tiranti, è veramente un bel attrezzo questo. C'è soltanto cose belle, solo bisogna avere gli spazi, bisogna anche che non ti dicano niente i condomini, quando sei in condominio, no? Come Roberto che ci ha parlato per sé e si è potuto piantare quello che vuole. Bene. E magari già. Se abitassi dove abitava mio fratello, già te l'aveva fatta vedere la stazione. Punta, lui abita vicino, c'è cioè, quello che è il battaglio di Monte Bianchino, quello che si vede. Ah, sì, sì. Un pochettino più avanti, linea media sarà 300 metri. Io ho capito dove siamo andati noi quella volta, cosa ho per quella strada che poi si collega alla strada di Usino, mentre c'è una specie di allargamento, l'hai visto più avanti? Sì, ho capito dove. È una buona zona quella. Lui vede il mare, il lume è bellissimo di lì. Di lì allora è andata più alla giunga, non si è mai andata a prendere un mare già di lì, con la discesa lì. No, non sono mai andato lì. Sì, a Roma che sono una vita, vabbè, non ci vado più, già mi piaceva andarci. Mi piace tuttora, però quando ci andavo con la gamba così non potevo andare, poi sono mediano, se non trovo gente per andare insieme, non mi piace solo. E io gli dico un giorno già, non è che io non sia grande mangiatore, però per il gusto di prendere e regalarle, sono andato una volta a prendere l'umate, cacca, non riuscivamo a trovare, in un attimo ne è sceso questa pazzata di acqua già, allucinante, c'erano tutti bagnati, c'era una specie di franata, tipo un uraghe, franata, una cosa del genere, tu devi vedere in 5 minuti cosa abbiamo preso di l'umate, non sapevamo più dove mettere, l'umate è quelle grandi, pieno, un esercito in un secondo, nel giro di mezz'ora ne avevo riempito due buste, non sapevo dove metterle pure. E anche a me una volta è successo sulla VDVD così. Sono andato però presto, verso le 5 c'era ancora buio. E ho aspettato in macchina, come alveggiato appena, ho cominciato a prendere lumache, che stavo con lumaconi, lumache di tutto. Dove c'è proprio l'incrocio per andare, dove ci sono i verdani, dove stavo facendo la strada nuova adesso, per intenderci. Ti accoglia 20 buste, io avevo solo due buste nella macchina, se non ne avrei fatto altre. Quando io me ne stavo andando stavo arrivando la gente a poter prendere i lumachi, che te lo mi stavo andando per con due buste spiegati a voi denti. E le macchine, quelli che vanno nella strada, la 131, prima di arrivare al vicolo di Patamona, ci sono quei pali, tutto pieno, le guardare piene di cose, che li prendono a pugni le macchine, non le hai mai visto? Ma non le prendere mai le buste della strada, tutto il fumo delle macchine, il cane, il coso, mamma mia. Io vorrei prendere una aperta campagna sempre le lumache, proprio per quel motivo lì, perché tutti i camion che passano al bordo della strada, c'erano tutti quanti, quasi tutti il coso, lo scarico laterale, infatti io una volta ho fatto la 131 a piedi perché praticamente ho perso, sono andato a portare il furgone a aggiustare lì. Alla Ford e poi sono ritornato indietro per andare a prendere il tram a cosa ottava, no? E fatto sta che andando a Santosa, no, ottava, e andando tutta l'erba era nera nei bordi. Sì, lo so, fa schifo, e poi tutte le cose che ci buttano cicche quando si fermano le macchine, tutto pieno di mondetta, ce n'è di tutto, no, sicuramente non è il posto migliore. Però io le vedevo la gente cacca a pugni, andava di lì, attaccava le mani sul palo e lasciava, tipo un raschietto, non mi dava a coso. Io quelle persone lì le amo, lo sai perché? Ma cosa? Perché ti lasciano la macchina sul bordo della cunetta, guarda, e non si preoccupano chi sta passando, per non fare magari 10 metri in più e buttarcela a fianco a un cancello, lì sulla 131 devi fare lo slalom molte volte. Guarda, io domenica scorsa ho rischiato di farmi male, però si faceva più male lei. Questa arguata, una ragazza, due ragazze in macchina. Il bivio di ottava salendo da Portottore, se c'è l'incrocio, non ottava, di Patamona, di lì. È uscita questa scema, come se niente fosse, come non ci fosse lo stop. Tranquilla, pulita, e si è messa a ridere. Me l'ha già pensato, ha detto, ma non te ne fa, ho tirato questa frase, ma se gli è arrivata la metà è troppo, cioè poco. Poi col vento mi ha di nuovo risuperato, come erano cotte queste due tipe, figurati, Robè, a me oggi rientrando a casa, non so se è presente la cosa, la rotatoria che c'è appena dopo il gommista, in pratica sarebbe la rotatoria che ti porta alla bretellina, dai. Ma dove è la pasta che sta dicendo? Ah, ponte nuovo. Il ponte di Minacca. Il Porto Torre, sì. Stai andando diciamo viale Porto Torres verso, che ne so, aiutami a dire, cioè verso la spiaggia, dai, arrivi a un certo punto che trovi la rotatoria che ti porta alla bretellina. c'era il portatore, si è messo a Piaggio. Perché Piaggio c'era il portatore? Non c'è più, ascolta, devi andare dritto per andare verso Città Mercante, invece che proseguire per Città Mercante, fare la rotonda e giri per andare verso Latte Dolce, dove c'è la pretella. Positivo. Ah, ho capito, sì. Beh, quindi... Ecco, io stavo rientrando, no? E ho visto questo appunto arrivando di gran carriera, no? Visto che stiamo parlando di donne al volante. Un po' di esperienza, bene o male, ce l'ho in 20 e passa anni di camionista. E ho detto, secondo me questa alla rotatoria arriva e non riesce a bloccare la macchina. E così è stato. Tu devi vedere questo appunto con le quattro ruote bloccate, con la strada bagnata, ha invaso la rotatoria. Figurati, io quando ho visto la macchina arrivare ho solo messo il muso del camion. Questa donna qui, tu dovevi vedere in che condizioni era quando è riuscita a fermare, non a fermare la macchina, no, a fermarsi la macchina. Perché l'altro giorno lì a Milano, io non ho capito come ha fatto a saltarne, ne ha sollevato un coso, è salita la macchina sopra un marciapiede, ha fatto 40 cm di marciapiede, c'è salita sopra una Golf quinta serie, si è sbattuta in piena al palo, contro mano, poi non ho capito come abbia fatto a sbattersi, o gli è smandata, perché nel senso ascendente, non so questa macchina come ha fatto a sbattersi a un palo di quelli grossi, se tu vedi come si è fatta la macchina. Robè, io ci credo, però arrivati a un certo punto questa gente qui dovrebbe essere mandata a revisione di patente, perché guarda, veramente, c'è gente che si accanisce contro chi ha il porto d'arma, e io sono uno di quelli, però questa gente che non sa guidare veramente come che abbia un fucile in mano. Guarda, poi per dire a te, l'hai visto già dove ti era successo al 13 a quella che ho notato di prima della Gonzaga? L'altro giorno stavo mettendomi nella rotatoria, non entra questa tipa, una 500, nuova 500, non l'ultimo modello, quello dei precedenti, contro mano nella rotatoria, sono andato e ho detto, quelli che non si può passare, questa rotatoria è tutta entrata contro mano nella rotatoria, ci siamo tutti fermati, c'erano le altre macchine, sono andato dicendo, chi fa proprio come se niente fosse successo, quella non sa neanche come si entrano nella rotatoria, è entrata contro mano nella rotatoria. Ne vedi tutti i colori. Una volta con Pierpaolo mi pare che ero un tipo contro mano, la strada in Porto Torre, Pierpaolo Otero, vero? Ci siamo visti a Lilioni, dopo Lilioni lì salendo dove c'è Sanna, no, dove c'è quello del rifornitore. Cazzo, vediamo questa macchina, le luci, ho detto, ma forse al buio mi sta fregando. Ma poi me l'ho vista venendo l'incontro, mi sono cagato sotto. Contro mano, una macchina contro mano, l'ho lampeggiata, niente da fare. Ah, cosa era giudito? Non me l'avrebbe più fatti avanti, va. Ha già detto, brutto figlio, me ne sono accorto subito anch'io che stavo venendo contromano. Ecco. Il break Massimiliano. Facciamo, buonasera a tutti, ciao Giulio, Gianni, Pierpaolo, Roberto, e poi non so che ci sia ancora. Ciao Massimiliano. Ciao, buonasera. Vabbè, ho parlato sopra le gialle, ciao Massimiliano. Buonasera, buonasera. Ciao Massimiliano, buonasera. Zittivo, ciao Francesco, che c'è ancora? Buonasera Massimiliano, Giuseppe. Capito, vabbè, parlate in due. Giuseppe. Buonasera, ciao Giuseppe, buonasera per ascoltare. Riprovete per chi vuole. A me già, lo sai invece contro me dove mi è capitato. Ci credete tu, San Giovanni, più avanti ci sono quei campi di calcio, questo campo 126 è entrato contro mano, è uscito da San Giovanni, è entrato contro mano. Io ho detto, se lo prendono, a me non mi faceva niente, ma io l'ho visto dall'altra parte della corsia, questo è sceso contro mano, ho detto, si ribatta anche due, perché lì non lo vedono, lo fanno a pezzettini. E poi c'è la curva lì dietro, che sta sorbidando in piedi. Ma questo qua tranquillo, ha detto, speriamo che se ne accorgano, proprio lo prendevano in pieno, lui è salito lì contro mano. Se a me è successo di notte, no. Salendo da Porto Torres dopo di Dioni, immagino, ho visto i fari, ma mi sembravano nell'altra corsia, forse quando era lontano, no, sembravano nell'altra corsia, poi, man mano che si avvicinava mi sono accorto che la macchina stava venendo quasi contro. Stavo detto io, quasi sono detto, ma che si fai, non mi pare una vita pace. E tu hai detto, no, sono l'altra. No, guarda che sono qua, opa, guarda con me, cazzo, questo è qua, Ma avevo io, a me fognato, ma già cosa è successo? Era come un amico Giulio in moto, quando c'era il periodo dalle vespe preparate negli anni 70, così, 75. C'era questa roba che tu vai a ripicitare, non ti faccio nome perché sicuramente lo conosce, era la tua. Dice chi sarà cieco, di sopra non me lo chiamavano un certo nome, Talpone, non so se. Talpone! Ma chi era cieco che non vedeva nulla? Ed era come cognato in moto, in due in Vespa, uno non ha fatto la lana, stavano tirando, correndo come gli scimmi. Io che mi sono due di questi giorni, non li passa mai in mezzo, ed era Luterano. Lui si era appigliato in pieno dietro, lui si è passato con la mano, poi tutta la notte, poi gli c'è acqua, boom, si è buttato da Luterano. Secondo lui erano le luci della Vespa di dietro, invece erano le parate di dietro del tram. E ma com'è già era Manuro tram? Ma com'è non avvenne in senso contrario? Se l'aveva caricato blu. Se ne vede, ma se ne sente, per carità. Ha di tutto, si vede. C'ha ragione Giuseppe, è una cosa molto giusta. Il mondo è bello perché è vario. Dimmi, per favore. Cosa è il poker? No, a tre ruote. Questa a quattro ruote. pistone, c'è la flascia con la bella che è in basso tutto, però ci vuoi buttare il motore. Sacro Cuore abitavo, piazza Sacro Cuore. Primo poi vedi tutti i migliori passano da queste parti e Roberto. Ma c'è anche mio cugino che è nato a Ocasiani, li conosce molto bene. Tuo cugino Roberto? Tullio. Con la T c'è il cognome. Eia. Tuo cugino è Timo. Vabbè, cugino acquisito, però è mio cugino, no? E Tullio Franco. Sì, ma è morto uno, non lo sapevo, l'epoca è morto l'altro fratello. Se lo loro. Marco, così si chiama, non è che lo conosce lui, però pensavo fosse cugino, invece mi ha detto che era fratello, sarà morto un annetto fa. Franco, invece. No, Franco non credo che sia morto. Tra l'altro non lo conosco, dico la verità, non me lo ricordo, non me lo ricordo, io conosco a Franco e a Tullio. E me lo conosce anche, per, non per Paolo, come si chiama, Giuseppe, lo conosci, se sei di quella zona lì, lui era di quella zona. Sì, di, personalmente no, però di coso, di vista sì. A molti anni ci sei di tu? 12 anni. Ah, non l'hai conosciuto, ci mancano un sacco di anni, è sposato, la figlia ha già 19 anni, fratello Gotto, lui sarà sposato da una ventina d'anni e abita di punti. Ascolta, beh, ma tu è polizia? Ci abita uno, è l'ultimo portone scendendo sulla sinistra, diciamo alla fine della via, forse non è lui allora. No, no, no, no, ma c'è la madre ci abita lì vicino comunque. E cosa mi hai già? Ho detto se ne è polizia Tullio. Tullio è moglie, mia cugina. Come civile però è polizia. Lui lavora all'ufficio tecnico. Ma sempre che te lo sto chiedendo, perché frequentavano sempre al lido della polizia, siccome mio socio era ispettore di polizia, quindi noi frequentavamo lì da giovani, e loro frequentavano lì, capito? Per quanto ho chiesto. Oggi c'è una vita in polizia, la, come si chiama? All'ingresso, le denunce, tutte quelle cose lì, e passano tutte tramite lì, c'è una vita. E io ho degli amici in polizia che lavorano in ufficio, Franco non le dà. Io ne ho anche mezzo parenti, cioè io direi, io ne conosco tanti, non c'è problema. E chi c'è rimasto qua? Avanti fratello. Guarda, scappa di Rogero, anda bene bene, mi ascolto solo, vai. Come mai fa che mi ascolto? Mi ascolto che sono stanco molto, stanco molto. A posto sì. Ah, oggi me l'ho proprio provato, E ti sento dalla voce. E vabbè, c'è un ascolto, buon ascolto, allora dai. Facili tutto quanto, rilanciali tutto a cosa, Antonio, vai. Gianni. Gianni. Un attimo, Gianni. Ehi. Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Falchetto, domani si dorme, così domani si sveglia bello al zillo. Ma io canta. Aspetta, se me ne ricordo. E nado, e nado, e nado, su bambino, e ri, de adorare, e ri, de... Qui si non ti fai vedere un mica, ti assusta la faccia. Lasci il campanello di casa sua che la smesso. Ah, Gianni, sono io, fatto. Così ha fatto. Non ho fatto la pernacchia, ho fatto. Tiranzu, tiranzu. Sorvoliamo, lì c'è la fretta. Gianni. Ehi. Franchetto, gli ha fatto l'usone, ha fatto la pernacchia a lui, il russo. La russanza ha fatto. Vabbè. Il russo. Lo dico come lo scatto di te, faccio io. Eia, quando avevo il 100 sottoalimentato. No, devi fare solo. Una bomba è passata. Giuseppe, saluti. Sì, saluto anch'io. io non so chi stia uscendo, perché mi sono dovuto assentare un momento perché c'è la piccola che bisogna tenerla in quattro per cambiargli i pannolini. Stasera, guarda, credetemi, fuori presa e non so manco io come definire, dai. Comunque saluto l'amico che sta uscendo e niente, a risentirci presto. Roberto Quadrato sta andando via. Ciao Roberto, ciao. Dimmi, dimmelo. Allora, per Paolo, qua è quello che arriva più forte di tutti. È il primo che ha salutato ogni volta che saluta per lo microfono, scusa, Falchetto, è il più forte di tutti, che arriva, e ogni volta che saluta lui, voi ogni volta dite, parlate sempre lui, sopra di lui, e l'altro di avanti fa, è l'ultimo che ha salutato sempre, è matematico. Vabbè, come facciamo a sapere le tesi di su? Ah, ci fa piacere che ci sono una volta. Thank you. Disarmato. Era spesso. Sì, vedi come ti parli? No, sono persone molto simili, là. Di piazzi socio fra io. Di piazzi te lo vorrà che lo faccio un gambe. E va bene, adesso. Si la si può giungare, si la cadu si può, ma... E giuro Pierpa, una canna da pesca in fibra di carbonio telescopica, cambio. Così lo prendo temporale, chi farà le date di corsa? Chi si era dratta nei bacomunicanti? No, cioè, sto cercando di capire come l'attacca, come la punta, è fine fine, no? Di lato l'attacca. Non incontrare la parte più grossa, su quella parte fine sotto. Lasci inventare un poco di gazzate. Quando lo incontro ancora non ne comprendi nulla, che fisso diventa un po' più incazzati. Ma perché venire a Roma? Babio, cugato, io voglio parlare con Gianni. Prima con me ha visto che gli stavo dando delle dritte, solo che era più sano, sa. Ma poi quando si godi non comprate più nulla. Adesso ho capito il perché, Gianni. Beh, gli stavo dando delle dritte sull'antenna, sui lineari, su questo, sull'altro, mi ha fatto un po' di domande e gli ho risposto, tutto lì. Infatti io poi quando sono intervenuto la sera, che ci ha detto, fa culo, tu chi sei? Già ho sentito che tu poi hai detto che non hai lasciato perdere, hai fatto finta di nulla, hai fatto finta di non sentire. Sì, io per due volte gli ho detto che non l'avevo copiato già, perché, ma dai, anche nelle condizioni in cui era, poverino, dai. Cate, lo sai qui dall'impianto mio, la mochitta di rovino che ne scia? Mi posso immaginare, passava tramite te, attraversava il cielo. Ma poi hai detto a me, da dove stai molto lontano tu? Hai detto dall'America. Ah, oh, ma esci piccolino. Sì, ma poi ti ho detto che eri vicino. Non sapevo anche da dove siamo lì. È proprio vero, è la sindrome che ha di Sella e Mosca. No, io a che si livello, sei un vegetale, non sei una persona, insomma. A me fanno schifo le persone così, che sì, uno può essere anche un po' brillo, allegro così, però quando ti fai così in un fumo, andava avanti. A parte che non si capiva nulla di quello che diceva, voi ti adorato, ancora piccio, lasciamo perdere, va. Allora, ma cosa ti passò lì quando vieni e fate le cose all'Igali? Se fate voi, vabbè che anche io ti ho fatto ridere, ma anche l'avevo fatto di noi. Infatti. La gente che ci avevo detto. come la metto in amici di casa della Bermudi? Non riesco a sentirlo, io spero che almeno lui mi senta. Sì, sì, che ti sento, Giuseppe, ti sento, a voglia. A voglia, tu non mi senti, no? Giuseppe, io penso che sia quel capo di ripetitore che c'è vicino. Ma riesco a prendere bene tutti, qualche lo sento come quando lui molla il pulsante del microfono, è come che stia scendendo una cascata d'acqua dentro le cuffie, già. Si dice fruscia, fruscia. Esattamente, mentre l'altro giorno lo sentivo bene. Antonio, come lo senti? Lo senti bene. Fai un passaggio, Antonio. 1, 2, 3, prova radio, gappa. Antonio, lo prendo con un Santiago di 7,5, cambio. Ma poi a me come ascolti? Ti ascolto come che sei seduto qui a fianco a me, Gianni. Appagappagappa. Va bene, questo che è il microfono che io ti stavo consigliando di ordinare, questo che sto usando in questo momento, ti piace? Sì, quello va benissimo, piuttosto quando abbiamo 2 minuti di tempo, Gianni, mi devi dare la sigla. Volevo dire una cosa, Giuseppe. Si chiama DM1000, lì come domodossola, M come microfono, 1000. Papa Gianni. La marca è Proxel, con la X, Proxel. I, R, O, K, X, E, L. K Gianni. È copiato? Copiato alla grande, grazie. Solo la telecomunicazione o qualche altra casa che c'è di su internet, su DB se ce l'ha, non lo so. Sì, ce l'ho Gianni, ce l'ho. Quando un pochino di tempo vi faccio una passeggiata su internet. Attento Roberto. Una seconda, segnaci tecnocomunicazioni.it, quella lì è l'azienda. Te lo mando a casa e poi quando ti arriva lo paro. Caffa. Però dici sempre perché a parecchio ti serve. Dici mi fa la connessione per questo tipo di apparecchio. Avanti altro. Caffa. Io volevo dire una cosa più seria. Dimmi tutto Anto. Ti chiedevi poco fa come mai c'è scritto 500 watt eccetera eccetera. E su cosa? Nel coso dell'antenna, perché praticamente ci puoi attaccare un amplificatore lineare che puoi attaccare che va fino a quella cifra lì va. E molto più piccolo. Quanto ti sto copiando male adesso perché o c'è qualcuno che sta disturbando, io sento ogni tanto dei fischi con della distorsione. Tradotto ti ha detto Antonio che ti stai facendo la domanda poco fa cosa voleva dire 500 watt, se si devono attaccare degli alimentatori a 500 watt, però ti ha detto non è così, ma è così, nel senso che se tu attacchi un amplificatore da 500 watt te lo regge, capito? Però se ne attacchi uno da 1000 te la scioglie l'antenna, è quello lì il prospetto che ti voleva fare, però gliel'avevo già spiegato io a tui. Ma cosa senti qui chi sotto di me? No. Sto dicendo una cosa. Sai che molte volte se c'è qualcuno vicino ti può annullare, cioè può annullare la modulazione mia anche. Perché qui si chiamano slatte. se praticamente se c'è un altro canale che è vicino a casa tua, nelle vicinanze lì, può succedere questa cosa qua. Vabbè, sono rientrato. Gappa. Canto, il più vicino che ho a casa è credo uno in via Parcoli. Cambio. Possono succedere questi fenomeni qua. Noi ci avviciniamo con la macchina. Tu stai parlando sul 21, io me ne vado sul 5. Tu mi senti di brutto. C'hai a San Vito più vicino dell'altro. C'è San Vito prima. Hai capito, Giuseppe? Sì, ho capito Gianni, ma voi li sentite ogni tanto queste sparate di fischi strani? No, negativo, io no, io. Giuseppe. Dimmi. Mi occupi adesso. Giuseppe. Ti sento massissimo. Si accoppiarmi? Sto copiando un bel male stasera. Va bene, va. Li prendi già. Dimmi cosa mi vuoi dire, ce lo dico io, là. No, no, volevo chiedere se mi copiava bene, ma mi sente basso. Cappa. Tu non conosci Anima Lunga, Salvesio, ma ce l'hai dietro, capito? Dietro proprio casa tua. Abita proprio dove... Vabbè, lì nei cipressi, per non dire dove. Quindi è più vicino dell'altro, di via Pasqua. Capito Gianni. Poi c'hai i Miniadari, c'hai a Massimiliano, sei circondato tutti. Quindi già, io come tizio di casa, a casa sono marcato stretto, cambio. Te l'ho fatto vedere, no, le antenne. Certo, però fra un po' vedranno anche la mia, Infatti. La mettiamo molto lunga, la alziamo un bel. Ma con le palo da 4 o da 5 prendo, Gianni. Prendi quello da 8, se vuoi così. Se tu prendi quel palo, se prendi quello... come si chiama, quella allungabile, diciamo, quello lì. Lo prendi da 8, ne hai solo lì, V5, il resto lo lasci dentro, le fa da anima, capito? Va bene, allora non è, bisogna che prenda il resto dei pezzi che gli ha tolto Tonino. Non lo so se... Tonino, come mai ti ha tolto questi pezzi? Tu lo devi prendere tutti i pezzi. Perché ti ne la cava di non agire un friso, perché quelli fili non ti servono per l'antenna grossa. Forse la colpa è stata mia, Gianni, perché io gli avevo detto l'altezza che mi serviva e lui li ha tolti, dai, non è... lo sbaglio è stato mio. Ma tu adesso cosa succede? Prendere un palo d'acqua oppure un palo di quelli... di quelli allungabili? Ma io adesso devo valutare se allungarlo con il telescopio, come volevi dire tu, oppure mettere direttamente il fisso dell'acqua. Quello dell'acqua è più resistente, sopra di lui. Ma se quello telescopico lo metti con un'anima dentro, che lo tiene, non c'è problema, non c'è nessunissimo problema. Ma io marcetto lì via le Porto Torres, vicino già, e loro ce li hanno quei pali. E a voi che ce li hanno, appunto c'è il camion per caricarli, non fai nessun tipo di fatica, te lo carichi e te lo porti su. Il tuo tetto non è nemmeno che sia così tanto alto. Sì, si può fare, si può anche dalla finestra si può passare addirittura. Diciamo che non è una cosa molto difficile. Poi si può legare una corda, al limite lo tiri su con la corda, capito? Sì, ma se riesco a passare col camion qui con la gru che ho, lo porto su dove voglio io, già, non è quello il problema. Ah beh, certo, ma devi interrompere la strada. Ne rapiamo un paio di macchine, hai visto com'è stretto qui? Già l'ho visto, già lo so, lo conosco bene. Lì ci abitava la famiglia Benizzana. positivo e ancora presente. Quindi vedi che io conosco bene la zona. Ti posso dire una cosa, che lì se tu ti fermi col camion vengono i vigili, se ti devi bussare a te un camion, perché se non c'è il permesso non le puoi fare queste cose, non puoi chiudere una strada senza permesso, senza autorizzazione. E infatti penso che mi faccio prestare un bagagliaio già e me lo porto su con la vettura. Dica, è un bel logo. Oppure il motocarro di zio, va benissimo, glielo faccio passare e me lo faccio prendere. Con il motocarro già va bene, non c'è problema, con il motocarro già si può mettere, perché nel portabagagli potrei scendere anche io, ma che è un bel lungo, io ce l'ho la panna con il portabagagli sopra, va anche bene. Ma adesso valuto Gianni, intanto in qualche maniera, in una maniera o nell'altra faccio, perché adesso vedo di contattare quello che mi ha piazzato questa qui di antenna e mi faccio consigliare un po' anche da lui, perché dietro ho due staffe che sono inutilizzate di un'antenna vecchia che avevo. Ascolta, ma te ne va giù di filo? Qui a casa no, sono quasi giusto già, addirittura ho dovuto allungare di un metro. Come allungare? Purtroppo sì, perché ho dovuto spostare un mobile e ho preso un altro metro. So che ho fatto una cazzata, però sempre meglio di non poter usarlo. Queste cose qui non si fanno, Il filo deve essere tutto unico, se no c'ha perdita. Poi l'ho visto, quel filo è un bel tirato, te ne sei reso conto come è tirato. È un bel tira quel filo lì, non deve essere così, il filo deve scendere molto, deve essere molto largo come discesa, non deve essere tirato così quasi che resta buttando l'antenna, è troppo in tira quel filo lì, e se ne avanza anche un po' sul tetto è ancora meglio, perché se tu devi allungare l'antenna, c'hai il filo, non fai altro che allungare il tubo e basta. Ma se invece non c'hai il cavo, appena il cavo in più sul tetto, non ce la fai, non puoi farlo, devi cambiare il cavo di nuovo, capito cos'è? Ma io te l'ho detto come l'avrei fatta io, l'avrei fatta passare dietro il fluviale, con fascettata al fluviale, lì, per quel pezzettino che ti va per la finestra, l'avrei messo quei chiudi che bloccano il filo del televisore, ce ne presenti quelli lì, l'avrei fatto tutto il coso, oppure anche una fascetta, là, ci potevi mettere, avresti fatto un lavoro bellissimo. Adesso capisco Giuseppe perché stai ricevendo basso e perché sei così basso. Non si fanno le giunture soprattutto con quell'antenna, no? Quell'antenna deve lavorare con cavo unico e soprattutto rispettare le misure. Anche se ne avanza di cavo, però deve rispettare certe misure per il suo funzionamento al 100%. Le giunture di quel cavo non le deve fare su quell'antenna, perché ti dà il 100%. Allora io ho preso già. Ma io lo potevo anche in tira il filo, capito? Un po' in tira. Sicuramente l'hanno tirato fino a quando ci arrivava e... No, io quel cavo lì adesso ti do un consiglio, cambiali, non si metti l'antenna perché non va bene. Sì, già, questa è la prima cosa che faccio, anche perché questo lo elimino. Ora, non mettermi mai il cavo giusto giusto. Per l'altra antenna puoi mettere il cavo che vuoi, me lo fai passare, secondo me. C'è il fluviale più qua che è proprio dove c'è il cavo dell'antenna, l'hanno fatto lavorare così a bandiera. Invece bastava lacciarla al fluviale, legarla con quelle fascette, quelle larghe, che ho preso io, che ho fatto il lavoro io. E se vuoi ti faccio vedere come l'ho fatto io il lavoro, per farla scendere a casa. Va bene già, però qui se adesso come piatto quell'altra ho bello chiaro come farlo fare il lavoro, perché lo faccio passare come sta dicendo tu nel pluviale e poi gli faccio fare la squadra per entrare qui nella mia finestra e che è un lavoro molto più pulito. Dimmi Pierpa. Quanto è lungo il cavo che hai messo? Guarda, io ho allungato, per l'aggiuntura che ho fatto ne ho preso un metro, giusto perché mi serviva quello, però come coso di antenna erano 17 metri quella che mi diceva la Storm. No, quello lo voglio fare, 17 metri e 98, la PL a PL. Oppure se non ti bastava, purtroppo lo devi utilizzare, 23,77. Ho capito già, però questo qui su non me l'hanno detto loro. No, tu quando hai comprato l'antenna, dentro c'era una tabella, dovevi rispettare quella. Io nel cavo originale quella misura l'ho rispettata, Pierpa, perché se io attacco il piede adesso dove ho fatto la saldatura, tranquillo che l'antenna esce di nuovo al 100%. Ma su questo tipo di antenna bisogna rispettare la tabella, non c'è niente da fare. L'aggiuntura poi proprio tu il primo ti sta togliendo, come mio ti sta togliendo due punti S. E ne sono sicuro anch'io per me. Perché adesso ti faccio una roba. Allora qua siamo in tre che stiamo utilizzando. In questo momento l'antenna uguale. Allora Falchetto, tu sei più vicino a me. Falchetto è molto molto più lontano di te, almeno guarda, non voglio esagerare, ma 2 chilometri in linea d'aria sì. Ma Falchetto arriva più forte di te. Ci credo, Pierpa, ci credo. Perché tu qua a me mi dovresti arrivare. Come mio, ho quella antenna. Non voglio esagerare, ma a me Santiago Roma mi dovresti arrivare. E mi stai arrivando con Roma, non me lo ricordo. Vedi un pochino già quanto sto arrivando. Pierpa, quanto sto arrivando. Sono Santiago di 5. Io ho perso parecchio, è un casino con, figurati, con solo un metro di aggiunta. A quel punto lì ti sta ricevendo bene, perché ti ricordo che sei con un quarto d'ora, e ti riceve bene che con un'antenna di 50 anni, tipo la Mantova, ti riceve bene, a breve distanza. Ma già hai visto l'altro giorno, già ottava, ti perdevano, perché è così. Però se tu rispetti le misure, io sono sicuro che tu li guadagni tutti, soprattutto gli spettroni fatti così, le giunture, se ne le togli le guadagni un bel punti S, se non anche 3 punti S. Adesso voglio provare sabato che ho un pochino di tempo, questa aggiuntura la butto via e vedo un po' di allungare, perché col filo del microfono, guardando bene qui dal mobile, dovrei arrivare abbastanza bene per va. E voglio riportarlo come era in origine questo cavo e vediamo un po' se guadagno. Ah, io sono sicuro di sì, le guadagni. Ma soprattutto si guadagna, sembra quella cuffata di chiamata. Qua dice c'è scritto 17 e 98. Lo faccio 17 già non me l'hanno preso, non è così, no. Funziona bene a 17 e 98, a PL a PL. Poi l'ho misurato, la spettrone che va dall'antenna a PL che entra nel magazzino e quello 17 e 98. Nel caso non bastasse si fa la misura più lunga ancora. Se ne rimane va bene lo stesso, non succede niente. Lì lo sbaglio è stato anche mio, Pierpa, perché già che lo stavo prendendo dovevo arrivare alla misura intermedia che mi diceva la Storm. Allora, dico una cosa, a me per arrivare da me ce ne sarebbero bastati, la seconda misura 5,46, siccome 5,46 è mezz'ora, allora per darmi tutti i punti S di ricezione e cosa, io gioco per l'esattezza 12,34 per avermi portato tutta l'onda intera. Se io metto l'onda mezz'onda, per esempio già lì già mi si è passato il segnale. Io a te non ti sentirei in questo momento, non sentirei a Falchetto, non sentirei niente. Perché anche se basta, bisogna dargli almeno un'onda intera, capito? E succede così su queste antenne, perché già sono un quarto d'onda, riduci anche la mezz'onda col cavo e non ricevono più, capito? Cappa, Pierpa. Ciao, cappa. vabbè, meglio chiedere, se non si sa meglio chiedere. Però le giunture ti danno dispersione, eccetera, eccetera. Ti fanno perdere segnale, ricezione, tutto qua. Il cavo deve essere unico, è preferibile che te ne avanti un po', però quello che ti avanza è meglio che lo lasci sul tetto piuttosto che dentro casa, perché dentro casa il cavo non deve essere né piegato né attorcigliato né niente, deve arrivare giusto all'apparato. Ascoltandomi stai. È meglio che rimanga un po' sul tetto sparso, però non deve essere tantissimo, ecco, di modo che se un giorno decidi di allungare il palo, c'è già il cavo pronto. K Gianni. Lì. Diciamo che se le cose non si sanno è meglio che piano piano si impara, non si finisce mai di imparare, visto ieri abbiamo fatto una storia che tu non hai mai fatto, e l'hai detto tu stesso, non si finisce mai di imparare, io non ce l'ho mai stato. Infatti Gianni, strada facendo il carico si aggiusta come dicono. Allora, certamente che sì. O Gianni, eia. Potrebbe anche rimediare con il potrebbe rimediare con con un coso di antenna, aiutami. Un barilò. Vabbè, ma tanto adesso lui si deve prendere con la lancia, con il cavolo che buonanotte, intanto e poi quel cavolo lo vedo male, lo vedo proprio in tira, io dico la verità, io l'avrei fatto diversamente il lavoro, quel cavolo l'avrei fatto scendere, c'hanno il fluviale angolare, sceso tutto lungo il fluviale, fascettato lungo il fluviale, messo dietro di modo che non si veda, non si vede nulla, si vede solo quel pezzettino che va dal fluviale, la roba con e buf, basta. Ma perché? Secondo piano, è l'ultimo piano. Ma se c'è un altro sopra di lui come fa a far settare su? Come fa? Glielo chiede, no? Oppure fa scettare il pezzo di giù, perché io come ho fatto secondo te, io mi sono sporto appena, ho fascettato la parte di su, poi a quello di giù gli ho chiesto di mettere la fascetta, me l'ha fatta pulire, all'altro che gliel'ho chiesto ha detto che la metteva lui di dargliela e non me ne ha messo, vabbè, comunque quello mi interessava ben poco perché poi me l'ha fascettato più su e poi l'ho messa giù da me. Che ho fatto, comunque vedo di rimediare di rimediare questo, vai, anche perché o tolgo questa giuntura oppure lo cambio direttamente. Ah, dove li ha messo le barilotte? Una giuntura li ha fatto. Gli ho fatto la saldatura, Gianni. Saldati poi le isolati così. Cappa, Gianni. No, non me lo dire. Sì, Pierpa, perché non avevo punti di riferimento qui e mi serviva questo spettone giusto per poter uscire, però io non credevo che con un metro di cavo in più potesse succedere tutto questo casotto. No, ma quelle giunture pure sono andate così, quelle prova a stazionare ci saranno quella roba. Ui, ui, ui, ui, ui. Ascolta, tu ce l'hai la lucetta da stazionare? Che molto l'hai pagato, Giuseppe? Intorno ai 100. Non hai pagato molto. Non hai preso la GB5 e K. Intorno ai 100 non è molto. Se 100 che non sia 220 come la LAN 48 costava 220 euro e ne costava meno. No Gianni, mi ha trattato non bene ma benissimo di giorno Tonino. Eccolo. Con un sacco importante, ce l'hai un lente che c'è il rosso? Sì. E qui sopra c'è un altro ancora? Negativo. Dove c'è scritto SMR? Non c'è scritto un altro lente che c'è il rosso? No, di lente rosso solo uno Pierpa. Non ce l'ha già? Quello è la lancetta che sta usando. No, c'era la lancetta, non ce l'ha più, ma c'è bruciato. Bruciato c'è. Mi parleranno comunque così quel prezzo lì, Mi ha fatto un prezzaggio, sì. Ma siccome c'è già lì, c'è una stazionaria, finite. Boh, non lo so. No, ma intanto se deve cambiare l'antenna, per il momento usala così a tutti i dini, da voi. Intanto quanto tempo che ci vuole per arrivare? Una quindicina. Sì. In tre giorni da Cantara con la ordiniamo e ce l'hai qua. La figurati tu. C'è la tecnocomunicazione, ce l'ha questa retta. Amico. Comunicazione la ordiniamo da lui a buonanotte, cosa stai agitando il desiderio? Se quasi quasi lo chiamo domani e della faccio disdire, dai. Aspetta, non disdire la prima la ordiniamo, quando l'hai ordinata la disdice. Andare Gianni, dai. Tanto non è che ci passi spesso da cosa da Cusaro, anche perché mi sto un pochino sulle scatole. Oh. Cosa ti stavo dicendo? No, 15 giorni lui sta aspettando che gli arrivi tutta la merce a lui. No, non va bene così. Noi in tre giorni ce li abbiamo, capito? Ce l'abbiamo in tre giorni. Tre giorni di lavorativi. SDA. Ok, dai, allora facciamo così, Pierpa. Se riesci a prendere in tre giorni a me va bene. Ma io non ce l'ho cogito la portata di mano adesso che c'è Marcolino addormentato vicino, non me l'ho potuto mettere. Ma controlla se c'è, poi già ci troviamo. Vi do il numero di telefono e se la ordina direttamente per telefono. Ma te la so controllarlo. Così facciamo prima. Capo, almeno non vuoi sparare a forte. Già le viste le cose tecniche già, anche testimonianze tecniche, eccetera, eccetera. No, già va bene, già pure arriva forte qua, chi ce l'ha arriva forte. Dai. Dai, io sto facendo qui per te, dai, che domani si lavora. Saluto anche a te, dai, e a Giuseppe, Antonio, Pierpaolo, dai, buonanotte, QRT, tappate via. Ciao Falche, buonanotte, ci sentiamo, avanti Giuseppe. Ciao Falche, ci ripresentiamo presto, buonanotte anche a te, ciao ciao. Antonio ha detto un attimo, va. Scavagare. Facciamo così, Giuseppe, noi veniamo dal cartallo direttamente. Ti arriva prima, anche il cavo, tutto quanto. Ti fa arrivare tutto quanto da lì. E allora io domani mattina lo chiamo e gliela disdico direttamente, Gianni. No, aspetta, perché se poi non ce l'hanno loro in casa, capisci cosa ti voglio dire? Ah, va bene, allora aspetto niente, una vostra comunicazione. Adesso Pierpaolo te lo dice se ce l'ha o no, perché se non ce l'ha c'è scritto esaurito. Ho capito, perché stasera quando sono passato lui mi ha detto che ne aveva già tre in ordinazione, cioè già scritte sul taccuino suo. Ma non si può aspettare per l'antenna 15 giorni, ma stiamo scherzando. E magari avrà qualche altra cosa che sta aspettando questo qua. No, oh, sai cosa fanno? Può fare un pacco unico e pagare meno. E aspettano, fanno tutto l'ordine insieme. E sì, quando fanno tutto l'ordine dentro non c'è l'antenna, ma non è giusto. Perché te ti fanno pagare anche le spese di spedizione? Loro le pagano per tutto il pacco, no? Pagano di 10 euro, 15 euro per tutto il pacco. E te ti fanno pagare 10 euro per un'antenna, per l'altro, altri 10 euro per un'altra antenna di spedizione. Capito? Sì, ho capito Gianni, anche per quello ti ripeto, io mi trovo bene su alla GPC, sono sceso giusto da loro perché ho voluto riprovare, però anche come gentilezza, come cosa, lasciano molto a desiderare e tu dirai quello non conta perché l'importante è che ti diano la merce, però non lo so, io li trovo così e proprio non mi va come comportamento di questa gente qui. Allora, un giorno ci andiamo insieme, come lo gentile raccomando a lui e vedrai che non hai problemi, perché Antonio non sembra così ma ti fa anche dei discorsi, cosa che la GBC non ti fa, e poi c'è quella casa la GBC che proprio mi sta proprio sulle palle davvero. C'ha dei modi di risponderti arroganti, proprio con quella faccia di coso che sembra che si voglia prendere per i fondini, capito? Sì, sì, Gianni, ti capisco perfettamente. Poi i prezzi che fanno, che dovrà comprare un ricevitore 220 euro, vai sul catalogo 190 euro con le spese di spedizione, vai. Figurati tu. Io vado a comprare un baracchino, la chiedo l'anno 48, 220 euro, vado sul catalogo, su internet, cavolo, e lo vedo 190 euro, e lui 220. Ma non è sul web, no, già. E cosa? Non è sul web, no, anche i grassi. Anche grassi, sì, anche grassi. Anche grassi, infatti, vabbè, quello di Natalina è stata un'occasione perché c'erano gli sconti, ma cavolo, c'era una differenza enorme, ne uscivano, allora praticamente abbiamo chiesto da grassi un baracchino, ne uscivano tre da internet, lo stesso baracchino, ne uscivano tre di quelli che vedeva gratis, grassi a quel prezzo ne uscivano tre su internet. E allora questo è un po' onesto, no? Insomma, qua lo sai cosa c'è? C'è poco mercato in queste cose, dove è il continente, dove di tutto, tutte le cose che cerchi le trovi, in più, ma no, se trovi anche da tutta la Cagliari c'è qualcosa in più che a Sassari, molte cose in più, addirittura i fornitori vendono antenne in baracchino, vendono microfoni, vendono baracchini, e i fornitori di carburante. Lo so Gianni, lo so, sono molto più forniti comunque di noi. No, allora metti sul motore di ricerca, cerca sul motore di ricerca dove la possiamo trovare. Io lo interessavo, l'ordine leggera. La Ringo solo. Che sospensione quella c'è la GPVR 6M, 440 centimetri. Allora, 440 centimetri, 1000 watt di potenza. Il lungo 4,40 metri, peso però solo 1 kg e già, allora è in alluminio anticorolla, fibra di vetro con conduttore spiralizzato, guadagno 5 dB, base materiale termoindurente completamente stagna, resistente a 150 km orari, montaggio a palo di sostegno, millimetri 25. No, no, il migliore è quella là, quella migliore, la Ringo c'ha 6 litri di guadagno, 3000 watt di tenuta, insomma è superiore. E poi quando ho preso un tiro per fare l'antenna, sicuramente il materiale è più fino. Giuseppe, cerca il suo motore di ricerca, la Ringo, si chiama LEM a casa, metti antenna Ringo LEM, venditori LEM, antenne Ringo, roba del genere. Allora, ma scusa, ma tu non vai a Cagliari, Giuseppe? Dopo riscenderci in settimana. Ma siamo a Cagliari, ci sono un paio di negozi e la Ringo la trovi sicura lì a Cagliari. E cappa per Paolo. Per fornare spedizione, niente. La trovi a Cagliari, guarda, se non me lo ricordo, gli divulgano, non so, ce n'è uno specialmente che ce le ha tutte quante. Tutte le antenne che tu cerchi ce le ha. Da quelle di avventura a quelle da abitazione. E ce l'ha la Ringo anche lì, adesso non me lo ricordo come si chiama io. Però se tu chiedi a Cagliari te lo indicavo subito. Va benissimo Pierpa, e poi anche amici a Cagliari, quindi sono per cercare anche. Te lo ricordi tu Giano come si chiama quel negozio che ha detto il vulcano, non quello del fornitore, l'altro quello dentro Cagliari proprio, certo, non è proprio dentro l'interno, non mi ricordo che via era, non ho detto il nome. No, non me lo ricordo più tanto, no. Non mi ricordo di che mi abbia detto il nome, io sapevo che c'era questo negozio, infatti dovevamo sempre andare a vederlo un giorno, dovevamo scenderci d'ingresso in macchina, eppure siamo mai andati. Capo, se Giuseppe scende a Cagliari c'è larga scelta, e poi c'è anche questo, il fornitore della cosa, non me la metto corretta, molto. Dice anche c'è un negozio di elettronica dentro, c'è baracchini, antenne, tutto quello che vuoi, però quell'altro negozio là è fornito in tutto, e lì la trovi ad occhi chiusi, guarda, la trovi senz'altro, la Ringo lì la trovi. E la Tamoil, se non sbaglio, dovrebbe essere quella di Terralba? No, no, mi pare che Marrubio, no, già. Marrubio, mi pare che... dove mangio io quando rientro, quella ha di tutto, le gadget per camion, tutto quello che cerchi lo trovi. E te lo indico subito, te lo dico loro, lo devi andare. E ma lui col camion, secondo me deve andare per fare bene male, a parcheggiare, a fare. Come ti va? Come ti va a parcheggiare, perché? Non è così semplice trovare il parcheggio col camion. Col camion? Ma non è dentro Cagliari, no, proprio una cosa, ma si arrivano anche ai mercati generali con camion grossi, dentro Cagliari, non è vero Giuseppe? Sì, sicuramente quello che sta dicendo Pierpaolo è quei negozi che ci sono in Viale Monastir. Sì, l'ho messo insieme lì, sì. Dovrebbe essere Viale Monastir lì. Sì, ce l'ho presente Pierpa, lì hai voglia a trovare, ma anche se non posteggi dove ci sono loro, addirittura c'è anche la nuova Sarmo che ha un piazzale enorme lì dentro. Sì, ma poi sono gli omicidi lì, ma nel mercato di noi non sono dentro, c'è tutto quel viale che gli omicidi, anche i rimorchi mettono. Viale Monastir, poi la Lizia, due passi, una passeggiata a piedi si può fare, dai. Ma infatti. Non è dentro Cagliari allora, fuori Cagliari. Sì, già, se non mi ricordo male è proprio all'ingresso di Cagliari, dai. Ah, sì, lì. La zona industriale, dove c'è la zona industriale, dai lì. Che poi un giorno basta guardare lì, guardare una cartina, guardare anche su internet, se riusciamo a beccare dove è il posto, o se capita un sabato, se siamo liberi, ci facciamo una scappata e ci facciamo un'escursione assieme. Perché no? Va. Ma sabato ancora di mattina? Sabato, ma io penso che lì siano aperti anche di pomeriggio i negozi. Perché sabato mattina di pomeriggio sì. Potete andare voi di sabato se non posso venire, adesso facendo il cartante. E sabato lavoro tutto il giorno. Perché rientri sabato? Penso di sì. Giovedì devo andare alla visita, poi venerdì e sabato si farà entrare. Ci si può anche informare se troviamo qualcosa aperto lì di domenica, perché so che lì di domenica sono dei diversi negozi sono aperti. Non credo quelli, però non quelli, no. No, perché ho tipo di negozi, ma quello non questo. Oppure se riusciamo a far organizzare magari un giorno che ci si può organizzare, non dico questa settimana o la prossima, vuole essere fra un mese o quando sarà, venga dai. Andarci con portafoglio pieno. Pierpa, tanto tu lo sai che io qui dietro la panca già sto cominciando a scavare qui dalla cucina. E io mi segno anche quella giovedì, io se la posso ma è troppo lontano. Ma io pian pianino adesso vedo un pochino, se non mi arrestano prima, l'importante è che non le sbuchi lì in mezzo alla strada convinto di essere arrivato alla panca. E anche vuole il gruppo di Capoglio Piero, ho l'intenzione di comprare ancora. Ma magari vedi qualcosa che ti piace, qualche cosa che ti piace, una cosa la voglio comprare di sicuro, se la trovo. Sì, a meno che Giuseppe non ti fa fare il giro di Piazza Bonafede e gli spendi i soldi, non è vero Giuseppe? Alla grande Pierpa, in chi vi hai voglia, sotto ogni ponte numero 3. No, non so mai me. E tutto me, c'è la scelta. Ma da che mondo è mondo, non ci sono mai andato e mai ci andrò. Eccolo. Io porto un uomo a fare, ma non era poco fa, e poi non, mi sono dimenticato, anzi, abbiamo cambiato discorso. Ma quando, per esempio, io quando sto parlando in questo momento, tu c'hai l'audio aperto, sentono tutti. Negativo. Ah, sei in cuffia? K. Ah, ecco. Non è per saperlo, perché ogni tanto, sai, io esco un po' fuori dall'orticello. Vai tranquillo Pierpaolo, ed è proprio per quello che ci si diverte. Ecco, no, è per saperlo, perché già lei non so che fare cuffie. Ma è te non sapevo se ci avevi l'audio aperto o no. Era già stato avvisato Pierpaolo. Ha preso sonno e se sente rumore che sta è un grillo. Ah ecco, c'è anche una pompa, e allora fai bene a mettere le cuffie, va. No, perché io sono in audio aperto, No, io sono in cuffia per fare, per la buffa minore che è dormita, ma per la buffa manna che mi ha fai tendi così, mamma mia. Io ho detto che l'ho aperto, ma ho 100 persone attorno a me. Io ho detto che non ne odiano queste apparecchie di me. Positivo Gianni. Ti hai detto qualcosa? Ti dico il motivo. Vai. Si sentono più oscurati. Tappa. Quando tu stai all'apparecchio non pensi a loro, quindi è normale che succeda così, no? Lo so Gianni, però un po' di svago ci vuole. Gappa. Esagerazione magari no, ma non si fa così, noi forse siamo troppo esagerati, io per Paolo siamo troppo, siamo sempre attaccati. Ma dai, quando si è liberi almeno si sta a casa, non è peggio quando stai buttato per i bar o per i circoli o dove cavolo ne trovi. Quello è vero, quello c'è, è vero, ma le donne non ragionano alla stessa maniera. Prendi di mia moglie quando eravamo fidanzati che avevo il baracchino in macchina, non lo potevo vedere perché parlavo con le donne, era gelosa, la verità. Poi però un po' si è calmata, ho visto che erano solo amicizie e basta, non è che era, si è calmata. Però diciamo che non lo può mai, non lo sopporta anche per queste cose qua, secondo me. Ma secondo me già è peggio il computer comunque. Vabbè. Infatti, io lo uso il computer, lo usa lui, lo usa mia figlia, lo usiamo tutti, però non mi sono fatto trasportare troppo all'inizio, sì, ma poi ho mollato. E invece loro continuano con questo Badu e Gishu, Gizas, non Badu, ma coso, ma come ti si chiama, Facebook. Mamma mia, cazzo, un altro mal di testa quello. Entra anche io, ma ci sto 5 minuti, ma guarda, un saluto, una cosa, è tanto. Io quella è l'unica cosa che non mi sono caricato nel computer. Vabbè. Io ho trovato molti amici fichi invece. Ho messo i nomi di certi amici che erano tanto che non vedevo, li ho ribeccati. Hai visto? Quindi è anche una buona cosa quella lì, eh? Sì, diciamo che è tipo una carambata. No, ho cercato mie ex cose, le ho trovate, ma non le ho nemmeno contattate, però loro, io non sapevo all'inizio che loro si potevano accorgere, sì, andavo a vedere il loro profilo. Invece mia moglie mi ha detto, no, guarda che sicuramente si sono accorte che perché c'è scritto visitatori e a fianco c'è chi ti ha visitato. Ho capito, quindi si fa la grande lì. Sì, diciamo che sì, è un punto d'incontro, ma a me mi piace più la chat vera che chatti nel momento reale, dai. E a volte su Facebook e cose ti lasciano i messaggi, fanno e tu rispondi, però non stai parlando con la persona, stai parlando con il computer. E infatti su quello sono perfettamente d'accordo anch'io, perché anch'io la uso la seconda opzione che hai detto tu. Cavagava. Vabbè, comunque. Adesso chat io, addirittura avevo lanciato insieme a una amica, perché avevo la stessa di online. Avevamo insieme questa chat qua, io facevo il vice moderatore, lei la moderatrice, quando non ci dava il moderatore ero io. Diciamo che abbiamo fatto anche pizzate, siamo venuti da Milano, da Cagliari, abbiamo organizzato delle pizzate grandissime. Tutto il Milano 26 pieno. Aspetta, è una bella esperienza comunque quella. Sì, ci siamo conosciuti, cosa, ho scherzato, riso. L'unica cosa che ha avuto è la minaccia di uno che la moglie ci andava con me e mi ha detto attento Gabriele, io mi chiamo Gabriele al computer, attento Gabriele, la mia moglie, lasciala stare, mi ha detto. Ho capito, quindi peccato al volo. E io gli ho detto, e c'è la mia moglie anche, mi ha detto, gli ho detto, ma veramente io ci sento solo, non la tocco. Ho capito, ascolta Gianni, ma è per la questione dell'antenna, per Paolo qualcosa dice? Non lo so, lui ha detto a Cagliari che ha sviato, io in 3 giorni, secondo me è l'unica, se tu non vai a Cagliari subito in 3 giorni l'antenna è qua, se tu vai dopo 3 giorni a Cagliari, ti conviene ordinarla direttamente da internet. Ho capito, ma per favore c'è sempre. Cioè sì, ho sentito la voce di tua moglie dietro il baracchino. Sì, è qui vicino alla bambina. Ecco, ma decinta da dove? Ehi, positivo. ha sgridato, ti ha sgridato a te, c'è quello sì, però si hanno delle sue piazze, così interessa. No, ma la piccolina ogni tanto dà due colpi di coda come pesci, però già quando ti sente che sei vicino riesce subito a prendere sonno. Ma quanto c'ha tua figlia? La piccolina ha compiuto 3 anni il 6 di novembre. È proprio piccolina. Ne hai due, così? Sì Gianni, ma questa piccolina ne fa 4. E l'altra quante ne c'ha? 20. Aspetta. Avete aspettato molto per avere l'altra. Diciamo che abbiamo gigionato parecchio. Vabbè, anche noi la verità, io ho 17, Marco c'ha 8 anni. Sì, ma sai cosa ti dico? Già quando arrivano sono ben accetti, e non dopo una certa età, perché se no poi è troppo, però niente, va bene così, ti riempiono la casa, dai. Certo che è bello avere una bella famiglia. E chi dice niente? C'era praticamente l'amica di mia madre che a 50 anni era rimasta incinta, si vergognava di uscire. Mia madre diceva, ma tuo marito ti ha messo incinta? Sì, allora frega te. Tre anni, due o tre? Due Pierpa. Uno di vent'anni, uno di tre? Positivo. Sì, 17 anni di differenza. Non è il treno per fa, è che ci eravamo distratti un attimino. Vabbè, ho capito. Aspettate, il 17 anni a un certo punto si è rotto la televisione, dai. Esatto, hai proprio ragione. Quando sei fasciata la televisione ha già fatto danno. Sto scherzando. Faccio una cosa, ti ha detto il 6 novembre, ha fatto 3 anni. Sì, Pierpa, il 6. Lo stesso giorno di Antonio, solo che 25, Antonio lo fa bene che mio figlio, sì. No, Pierpa. Mio figlio Antonio. Ho capito, e quanti anni ha adesso? 25, infatti, il 6 novembre. Caspita, è un giovinotto oramai, eh. Sì, io due, io. Sono 23. Quindi oramai sono grandetti. Sono grandetti, ma fanno da soli. Hai visto, dopo tanti sacrifici per fa, hanno fatto lo stesso percorso che abbiamo fatto noi. Fai tanto per farli grandi e poi vedi, ti scappano dalle mani e manco te ne accorgi. Non avevi capito che sei che era mio figlio, eh. E no, Pierpa, sinceramente no. Tu sempre no. Sempre qua, vecchio, sempre qua, anche lui. Ma se non sbaglio ci ho parlato anche questo pomeriggio io con Antonio. Sì, sono qua. Senti? Sì che lo sento. Sono sempre qua. Moduliamo dalla stessa casa, hai capito? Ma non due postazioni. Ma noi ci siamo sentiti questo pomeriggio. Io non ci siamo sentiti. Ero con un altro apparecchio, però. Adesso sono con questo. Con quello che uso attualmente, dai. Siamo sentiti a voi, ma ci siamo sentiti anche pochi minuti fa, Certo, Anto. Io quando ci siamo sentiti questo pomeriggio stavo appena rientrando in stabilimento. Sì. Sì, no, ti ho sentito benissimo, senza problemi. Sì, no, ci siamo sentiti. Ma ci siamo sentiti anche pochi minuti fa. Certo, ma come sta uscendo stasera, Anto? Benissimo. No, ti sentivo bene, eri Santiago Notte, me lo ricordo ancora. Caspita, e quindi sto uscendo bene perché mi hanno fatto fare una modifica all'antenna, però anche lì sul camion ci devo lavorare un attimino. Giuseppe, comandi. Un'altra cosa che dobbiamo provvedere è metterti in nominativo. Sarebbe anche ora. Battezzanti, che si chiama battesimo in frequenza. Andà bene Gianni. Aiuta, promette ragazzi. E lui cosa pensa? Cosa nominativo? Com'è? Te immagina, dovrai. E io per qua, non è... così su due piedi rimango un po' così perché ne ho sentito talmente tanti. L'importante è che non mi stronziate. Tu sei un trasportatore, giusto? Cosa trasporti? Trasporto vetro per qua. Vetro. Aspetta, mi è venuto a mente a me, D'Artagnan, ti piace? Ma perché? Sei di Pizzetto? E allora? Se può anche andar bene, Gianno, che problema? Poi se c'è qualcuno che ce l'ha migliore, dai. Siccome è Pizzetto, per favore, chiamiamo D'Artagnan, che finito sia. Di Pizzetto, già. Cava. Ma D'Artagnano, come piace, no? Ti piace, sì. Pierpa, dimmi, pensa un po' di gay? Pensate un po', capito? Stavo dicendo, sa un po' di gay. Ah, di frocio, ecco. C'ha ragione, già, sa un po' di frociabile quel nominativo, Macca Martoni. Vediamo un po' che cosa ne riusciamo a caparne fuori da qua. Ecco, trasporti un vetro, autotrasportatore, che camion c'hai? È l'ultimo tipo delle Mercedes, il 2533. Con il figlio, beh, ci penseremo, poi ti faccio sapere. Ok, già, senza fretta, l'importante è che sia un qualcosa di masticabile, no, Pierpa? Sa tu il così? Sì. Ah, mi piace il tuo cuore? Sì. Penso già, se ne mettiamo un sacco. Ah, no, no. Lo cerchiamo, non mi attivo, va. Ci penso io. Sacco non mi piace, non mi piace. Proprio niente, no. No. Già mi viene fuori. Vai tranquillo Gianni, come ho detto poco fa, senza fretta. E come dice il buon Falchetto, lento ma costante. Ma niente, siccome l'altro giorno ho sentito, provato per questo il vermentino, quell'altro il torpato, con te ho sentito che stai facendo fuori un cacchetto, non è che non chiamiamo un cacchetto, Gianni, chiamiamolo Bacco, cacchetto. Ah, ti va bene te Bacchetto? Cazzo, ma state in preagone che su già. Infatti, ma no, già. Stanotte ho tempo per pensarci, però sono al computer, ci penso. Penso a due cose. A vedere dove possiamo prendere l'antenna e via anche quel nominativo. K Gianni. Cosa la città? Vabbè. Oh, riuscite anche per Massimiliano, nominativo, non puoi ci vai. Io quando prima ogni tanto modulavo con mio cognato, avevo un nominativo, però sicuramente me l'avranno preso, anche se ero da tanto ormai senza farmi sentire più qui in radio. Perché nominativo avevi? Ma a dirti la verità io l'ho sentito l'altro giorno, voi avete già un doppia vela o sbaglio? No, c'è vela 1, poi c'è la doppia vela 21 che era quello della Croce Verde e non sta più modulando e poi basta, doppia vela non c'è. Io avevo quello che hai detto tu adesso, doppia vela 21 e sicuramente me ne l'ha potuto lui. No, lui da molto che modula e non sta più modulando adesso. vero? Perché quello lì, perlomeno per le poche volte che riuscivo a uscire, mi conoscevano per quello. Boh, non lo so. Mettiti il nome di un vento, praticamente. Tramontana di Biccio. Non lo so, non lo so. Tornado. E Tornado, abbiamo qualcuno? Non mi sembra che c'è nessuno, Tornado. Comunque, il 01 può essere che te l'abbiamo usurpato, Dimmi Pierpaolo, l'ho copiato. Ho detto che il 01 è possibile che te l'abbiamo usurpato, perché il 01 c'è da un bel po' di anni, molti, molti, molti. Sono io comunque. Io le volte dico Radio Vela, ma comunque sono io Vela 1, il numero è Vela 1. Se andrebbe bene Polverone, ma c'è già per il carica. No, lì c'è Michele, lui abita appena più su di casa di mamma, Michele Polverone. Ma... Oh, comunque è tornato, non è brutto, Dimmi una cosa, Pierpaolo, già, ma Doppia Vela è già occupato? Doppia Vela non c'è. Allora io con chi stavo parlando, quando c'era, aiutami a dire, quello che modula da coso, dalla vicina Graziella. Vicina Graziella, chi è? Tiro Musco? No Gianni, si chiama, aspetta un secondo solo, È tornato, c'è meglio. Tornato, è meglio Tornato, Giuseppe è tornato, fila anche liscio, dai. Dai, mettiamo quello allora, dai, magari fate girare voi la voce, ossia che magari se lo dico io direi che sono decido. No, tu ti presenti come è tornato da domani, se ti dicono qualcosa dici sì, mi chiamo Giuseppe, ma non è mai attivo, è tornato. Cappa, Pierpa. Allora, lanciamo il battesimo, Giuseppe è tornato, Va benissimo, allora questa vuole bevuta, cambio. Mi suona bene questo, allora ascolti la radio, è tornato. Vai alla grande Pierpaolo, cambio. Cappa. Ah, va bene già, tornato. Va bene, Giuseppe. E dimmi a tu. Ha chiesto al buio, tanto si può dire non sei donna, quindi si può dire l'età. Sì, non c'è problema, 47 suonati, cambio. Ah, siete più piccolo di me anche. Anche di me. E dimmi Gianni. Io ti frego. Sì, me l'hai detto Domenico, però non è un problema, è di pochi 2 anni, dai, 1 anno e mezzo. Niente, a te non dimostrarli. Quello è poco ma sicuro, tanto siamo sulla stessa barca, non è 1 anno di differenza che cambia il mondo già. Tornado Giuseppe, Gianni è più grande di me. Ah, è più grande di te e quindi è più grande di me, quindi siamo una via di mezzo, dai. Gianni? Ehi? Sei più grande di me? Ma se ne dimostro di meno. Oh, yeah. Ma se sono più grande di Gianni, bro? Per pallone a 64. 64 anni, corre. Qualcuno forse vuole entrare. Ma avanti che vuole entrare. Lui che stavo ridendo perché per farlo si incazza. Tu io 64. 64 anni, sono che correggi e tu appena voglio. Per le vie di San Cesare da fermarti mai, diceva mia madre. Che fa? Giuseppe. Dicevo. E tu sicuramente sei nel 61. Tu è che è più grande. E non ho copiato Pierpa. Secondo te a voce di due chi è più grande? Voce non mi conosci tu. A Allora, avvocimi sicuramente tu, perché la tua è più grossa, rimane più robusta come voce per te. No, non è per quello che sono più grande io, è perché lui c'ha la voce del nome Campbell. Invece la mia, la voce è maschera. Rude, rude. Come dice Salvatore Barragricola, il giorno che lo senti, Giuseppe, qui ci dà le risate. Ho capito. E te lo parla che cosa la canta ci mette la macchina, ma non so manco se non se la metti in una macchina di antenna, boh. Ma già se la metterà sicuramente, la metterà 6 o 7 come nell'altro. Lui è quello che ci faceva ridere, per carità. Non è che ti chiama per nome artico, ti chiama dottoressa Gianna Nannini. Aspetta, dottoressa Gianna, come stai oggi, cara? Capa per fare. Quello è Salvatore Barragricola. In pratica fa un ingresso che si capisce. Fa così. Qualche è capitato qualche volta di averlo sentito e qualcuno entrare fischiando. Qua ti ha giurito, ma sono arrivati di pecori. E sempre lui è così. Ne ho beccato uno l'altro giorno ed ero di rientro appena dopo le gallerie, però non riuscivo a capire questo qui stava sbraitando, qui è radio o postazione, non mi ricordo cosa. Cazzo, però usciva forte quello, in galleria. Sì, rientrando qui a Sassari ne ho beccato uno e mi ha detto che stava modulando in stazione fissa, ma usciva una bomba quello, proprio a palla. C'era K2. Però. Dice K2. Capita, ma stavo scendo che era un micidiale, e lì qui a casa io K2 manco lo sento. Quanto tempo fa? E guarda, sarà 4 o 5 giorni fa, forse, aspetta un attimo, forse venerdì scorso, se non mi ricordo male. Sì, ma la radio la riconosci, è tipo una radio come questa. Sì, sì, è tipo questa, però avevo un modo di parlare strano, però che poi lui forse ho qualche dubbio, perché avevo un modo di parlare un po' strano, una parlantina molto veloce. No, lui non è un radio uguale a questa mia, già. Ma non sarei stato tu, Pierfano. No, perché ho messo a ricordare una cosa, un altro. Da poco c'è un camionista, ma adesso gli stavo rovesciando la cabina. Se mi è passato abbastanza un po' lì nelle vicinanze, mi ha detto, cavolo, mi sento nel frattempo la cabina, chi è? Tu non mi perfa, Radio Criminal. La Radio Criminal. Così faceva il cambio. Vai alla grande. Sì, perché un po' perché in camion lo sento diverso qui da casa, però proprio fondo scala al massimo. Antonio, te lo ricorderai quel giorno che chi è? Che ho sentito di cui stavo rovesciando la cabina, deve essere lui. Non lo so, non mi pare però. Non me lo ricordo, dico la verità. Perché con questo tipo noi abbiamo anche parlato e per parlare. Sì, quello che parlava con l'accento così. E poi ce n'era un altro anche. Non so se era lui, Giuseppe, ma questo qua però, questa parola è capitato lo stesso giorno. No, perché oltretutto io con quello ci ho anche parlato un pochino. Mi ha tornato. Sempre sul 21 per fa. No, sul 5. E dove stanno i camionisti? Sul 5, 45. Tu sul 45 neanche ce l'hai. E no, io il 45 non ce l'ho, ma quando sono in Barrapesante sono sul 5. Sul 5 io sto, sul 5, non sul 45. Raramente sto sul 21 quando sono in movimento. Ho capito. Sul 5 anche, e io quello è sul 5 e il 45, se non è che ci spostiamo quando c'è qualcuno fisso, in stazione fissa, ma se non sono sempre sul 5 e sul 45. Tu figurati che in questo apparecchio che ho io, un tipo che diciamo un po' se ne intende, mi ha detto che basta fare un ponticello con un pezzettino di filo e becco addirittura 100 canali. Sì, 120 Quindi adesso bisogna vedere di combinare qualcosa, perché 40, io delle volte sento anche dei colleghi si spostano su 41. Sì, sul 45 più che altro. No, il canale base 45 è quello che si usa anche dal continente a qua quando si fanno i collegamenti, dai, e le tappe lo sentirai, però il più che lo viene usato diciamo è il 5, dai, poi sul 45 ci si va in certi momenti. K per Paolo. Ehi, comunque, non lo so, se ti vuoi attrezzare, basta farlo a questo ponticello. E che lo può fare qui, per fa? Per fare quelle cose sembra Luigi o Levilare, non lo so se c'è qualche altro lo sa fare. Ma c'è Emiliano, lo dai, che c'è la mitra. Ah, per Gianni, dove siamo andati l'altro giorno? Con Portini glielo dici, sì. Tanto lo schema ce l'ha, gli porti lo schema, te lo fa lui, ce lo sa fare. Perfetto, già, sai che non ci avevo mai compensato a lui e c'ero qui dietro casa oltretutto. Gamma gamma, basta andare in cosa, in laboratorio, glielo dici, e ti ho mandato io, dici, mi ha mandato Gianni doppio. Perfetto, Gianni, sei un amico. E lui c'è la Milan, è assistente Milan. E ne approfitto per portargli anche il 100 per vedere cosa gli è successo, ma sicuramente sarà qualche condensatore di alimentazione partito. Ma non la cosa è parecchio, mamma mia. Dici? Poi tanto esce male il radio, boh, non ha apparecchio che non vale nulla. Ne non proveremo a metterci un centesimo su quell'apparecchio. No, no, secondo me no. Ok Gianni, e così faccio, tanto diciamo che ripeto sempre che l'esperienza insegna. E quello lì è un apparato, tanto l'hai pagato, 100 euro, magari ce ne rimetti altri 100 sopra per aggiustarlo, come per comprarlo nuovo. Quello lì, ti dico la verità, l'avevo pagato 29 euro. Avvio. E su eBay, però era nuovo, in tutto il celofanato quando mi è arrivato, con garanzia e tutto. Quanto? Avanti. Quanto è pagato quello avanzato? 29 euro su eBay. Ah, perché Torino lo vendevo 80 euro. Ma di più 120. Dietro tre giorni, e manco a fare la posta, quell'asta scadeva di domenica. Ho rilanciato di sabato e deve essere là sotto controllo questo apparecchio, no? E subito me l'hanno portato su di 50 centesimi. E ho lasciato tutto sabato e tutto domenica mattina senza farmi vedere, no? Come per, che ne so, far vedere che non ero più interessato. Vabbè, il mio era 120, il mio era 120 e costava 120 euro. No, no, quello che ho preso era da 100, 80 euro, ma comunque non si mi annuncia un malattio di vittoria. Non deve quello, quelle della Lince, della Lince. Qua per non prendere la 900 preferisco prendere l'H520 Intex. Io qui davanti adesso ho il catalogo delle 48 Plus Multi. Guarda, ma è veramente bello questo, è come baracchino. Quale? È l'Alan 48 Plus Multi, ce l'ho qui davanti nella foto. È veramente un bel baracchino, e forse questo qui ha quelle LED che mi stavi dicendo tu poco fa. Io c'ho il Plus. Adesso non l'attacco perché tardi, ma un giorno te lo faccio sentire, quando di domenica mattina magari, cosa te lo faccio sentire? Oh, ti ripeto già, io qui vedo la fotografia, casa mi è una bella bestia, eh. Ma io c'ho il multi, ma io c'ho il plus, 48 plus, quello che c'ha le memorie, tutti i tastini, eccetera, eccetera, si fanno via. E questo qui lo stesso, c'ha a fianco al microfono 4 pomelli, poi sopra c'ha 2, 5, 8, 8 tasti. Ma è gamba. No, questo qui ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anche il mio. Ma allora guarda. Cos'è? Dimmi. Ma c'è l'applauso sul microfono quello lì. Quale? Quello tuo, c'è l'applauso sul microfono. Sì. È positivo, Pierpaolo. Ah, peccato, va. E perché, Pierpaolo? Se no provavamo ad attaccare il problema. Avevamo lavorato a trovare un MV5, a trovare se lo faceva uscire bene di voce. E sicuramente ci vorrà un microfono amplificato per questo. Io adesso vedo anche l'indirizzo che mi ha dato Gianni di vedere un po' qualcosa. No, te lo prestavo io per un po' di tempo a vedere se usciva la voce bene come me. Tu l'hai fatto, no, già? E io? Ma si può fare il connettore, si potrebbe provare a farlo e vedrai come esci, come spari di voce. Possiamo provare, Pierpa, non c'è problema. Spero il mio dal su, ho apparecchio diverso. Che cosa? Il mio apparecchio dal suo è diverso. Non c'entra niente, ma sono sicuro che quello suo innanzitutto è normalissimo, manco tirato di coso, di ALC. Come vorrebbe anche tirato di ALC un po' me. Giuseppe, non l'hai toccato, no? No, assolutamente no, Pierpa. Quello vorrebbe aperto e tirato un po' la LC per dargli più un po' più di forza nella voce. Infatti è quello io che avrei voluto, Pierpa. E l'hai centrato in pieno e come obiettivo. Ma comunque se ci metti un buon amplificato, vedi come va. Poi si impara bene. Eppure lo voglio provare. Mi sa che c'ho già il connettore a 5 punte nel box, il nuovo. Poi prendiamo quello già, lo facciamo proviamo a vedere come esce anche con l'eco. E a 6.000. A 6, cioè 6 punte. Io questo che ho io, aspetta un attimino che ti dico a quante punte e me lo dovrebbe dire il catalogo qui, un attimo solo. Quello esce benissimo, Pierpa. Col Prox esce benissimo, perché l'ho aperto appena la legge, abbiamo messo il Prox e va benissimo. Vuoi provare, Giuseppe? Lo mettiamo a provare come esce qui. Va benissimo, Pierpa, se a te non ti disturba, a me va bene. È soltanto che bisogna fare il connettore, quindi bisogna trovarci per fare il connettore, giusto per quell'apparecchio. Va benissimo, non c'è problema, anche un sabato pomeriggio, quando sei libero tu, Pierpa? Io sono libero il sabato pomeriggio e la domenica mattina. E io lo stesso. Allora possiamo provarlo, dai. montare il connettore e provarlo. Va benissimo, io ti ringrazio già da adesso per questo. Nuovo, ancora ne l'ho fatto arrivare, però non l'ho usato ancora. Così lo provo e vedrai come esci con l'amplificato. Va benissimo per passo, sono sicuro di uscire bene. Vediamo un po', ce l'ho qui di fronte a me, un secondo solo. Così magari poi, se gli piace, se lo ordina, no già? Ah, infatti, fa. Ma io ce l'ho col collettore a 7, se pare, già, un microfono, solo che lo sto usando io. Senti Paolo. Sono uguali. Vabbè, Midland è una Midland dell'altro. Up down c'è una, up down c'è l'altro. Se per provare un attimo io glielo posso portare e farglielo provare, ma lasciarglielo no perché lo uso. No. MB+5. Ah no, io intendevo il boxer di MB+5. Ah, no, non ti avevo capito. Ti avevo capito. Ma infatti ho detto di ordinarcela, l'ho detto di ordinarcela, che va bene di sicuro quello lì, di MM sui 48 va benissimo, bisogna aprire appena la 10 e va che la grava. Gianni? Eia. Allora io sto guardando qui, questo qui è quello che ho io, è connettore a 6 pinne. Connettore a 6 pinne, quindi... Prova, sì, sul computer. No, già, sono qui davanti al baracchino. Ah, capo. Ah, vabbè, pensavo che l'avessi di vicino. Vabbè, comunque, Tornadus, ripetite la tua. Ascolta, per questo aprire questo LC sull'amico nostro me lo fa? Sì, se gli porti lo schema lui te lo fa. Ok, io gli porto tutto, libretto e quanto nella scatola. E poi niente, gli dico di arrangiarsi lui già. Cosa gli devi fare di altro? Di aprire l'LC e poi... E poi non lo so, quello che mi consigliate voi, cioè, ma niente di magari di scandaloso, perché io in camion ce l'ho meglio in vita. Niente di scandaloso, i canali. Canali, se fa quel ponte, mi pare che arrivi 100, 120, mi stava dicendo addirittura Pierpaolo. Bisogna se ci vuole la scheda, o se ci vuole solo il posticello, vediamo un po', perché in certi apparati ci vuole la scheda dei canali. Io per dire, c'è questo apparato qua della Midland, che se li faccio il posticello arriva a 400 canali, però non glielo mai fanno per lasciare l'originale, tanto ne ho altri che vanno lì. Ho capito già. Più là magari. Adesso se no ti spenti su di una volta, fino a ti diamo consigli sugli apparati, ti facciamo prendere un apparato come si deve. Ma guarda, io ti dico una cosa, forse è meglio iniziare ad aprirgli, ricordami come si chiama. La LC. RC? Ah, LC. Ah, ecco, questo LC, poi magari in seguito vediamo pian pianino di fare qualcosa, perché se, come dice Pierpaolo, con il microfono amplificato e aprirgli un pochino di ALC, magari se riesco a sparare meglio, tanto di guadagnato. La voce ti aumenta come se fosse amplificata, capito? La molto esce un po' più forte. Ma con l'amplificato esce ancora più forte. Questo amplificato non c'è bisogno di aprire niente. Allora proviamo col microfono, dai, prima di farlo toccare per fatto. Ecco, proviamo. Va bene, dato l'ora. Radio Vela si ritira nelle stanze. Giuseppe segue a ruota, cambio. E ce la riscontriamo tutta domani, oppure quando coincide. Radio Vela chiude le trasmissioni, buonanotte a tutti, ciao che faccia, buonanotte, avanti, tornato. Vi auguro a tutti. buonanotte e a risentirci alla prossima. Ciao Tornado, ci sentiamo, buonanotte, avanti. Oh, Antonio. Ciao Gianni. Ciao, buonanotte, dai. Buonanotte, ce la risentiamo alle prossimine, dai. Ciao, ciao, ciao, ciao, Antonio, ciao, ciao. Stai chiudendo, ti auguro un buon anche a te. Ti sento assonnato, ti sento un po' assonnato, mi sto chiedendo per quello. Negativo, no, stavo parlando piano, parlando, per non disturbare. E pure io adesso, dai, non so che ore sia, pure io adesso vado a riposare. Vado in quelle lì perché non posso più parlare. Le 11:10 sono. Sono? Le 11:10. Un pochettino. Chiudo. Quindi Giuseppe ce n'è andato, vero? Sì, tornando alla cuffia. Ma siamo pianino, dai, già. Adesso l'ha fatto, signora Ferri. Chiamoci di bene a chiamarlo per nominativo, se non è tutto. Chiamo Giuseppe, è l'ermano di Giuseppe. Scappa. Sì, sì. Forse l'abbinamento bello come già. La ringo col conto, con le senombre, tu, Ci stavo pensando a... Dacci per pago, la c'hai. Devo lasciare, dai, buonanotte, ce la sentiamo domani, perché è troppo tardi, qua devo dormire, mi sono accorto che pensavo che mi guardo, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Gava, ciao, Pierpaolo, ciao. Ciao. Sentite, anche se parlate col portatile. Ciao, ciao, ciao.